Sì, io ho cominciato proprio con la radio e il doppiaggio. Doppiavo i film porno all'inizio, 35 anni fa. Era... Ti piace? Ti piace? Dimmelo che ti piace. Avanti. No, era così, ma una cosa... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Giuseppe Cruciani, della Zanzara, lui che è il genio del male, che ha capito, insieme a Sancho Panza Parenzo, non so se lo conoscete, lo scudiero di Cruciani, ha capito, se io faccio parlare la gente, la miseria umana, se la faccio parlare, diventa un programma straordinario. La Zanzara è il tendone dei fenomeni da baraccone, e ripeto, lo dico con amore. Caro Parenzo, non so se ti ha fatto ridere anche a te l'immagine degli immigrati con la tuta da sci. Gli immigrati con gli sci in mano, perché in Alto Adige, in alcuni paesini dell'Alto Adige, sì, in alcuni paesini dell'Alto Adige, sì, gli abitanti del luogo, che per carità saranno anche agevolati nel pagare le tasse, eccetera, eccetera, con i loro denari, adesso faccio incazzare qualcuno sicuramente, tu mi dirai sei un populista, sei uno che c'entra, qual è il collegio? Noi con le nostre tasse, anzi in particolare i signori dell'Alto Adige con le loro tasse, hanno pagato i corsi di sci ai rifugiati. Ottimo. Ma come ottimo? Ottimo, giusto, civile. Civile. Cioè sì, i rifugiati che stanno in alcune attenzione, caserme. Attenzione, comunicato primo della trasmissione. Nuova programmazione Radio 24, la radio degli operai, in vista dell'elezione del nuovo presidente della Confindustria, candidato unico Mario Capanna. Ma non è vero. Non ecco è a voi velocemente il nuovo palinsesto. Mattino 24, oggi guidato da tal Alino Milan, sarà sostituito dalla trasmissione Buongiorno Operaio, conduce Maurizio Landini. Mix ma 24, mai... attualmente guidato da tal Minoli, di cui non sappiamo l'esistenza, sarà sostituito da Mix Operaio, conduce professor Tony Negri. Focus Economia, guidato da questo signore Barisoni, mi dicono, sostituito dalla trasmissione Padroni Addio, conduce la signora Adriana Faranda. Ma come? Al posto della Zanzara, nuova trasmissione, si chiamerà Tecniche di Guerriglia Operaia, conduce Mario Capanna. Prossimi aggiornamenti nella edizione del telegiornale delle 19. Ma scusi Capanna, ma lei non era candidato alla presidenza di Confindustria? Candidato unico alla presidenza. Ma è pure conduttore. Unico. E abbiamo ridisegnato con il consenso di tal Roberto Napoletano. E chi è? Che è l'attuale direttore del cosiddetto Sole 24 Ore, ma non è questa idea. Transizione per la guida mia della Confindustria, in cui abbiamo delineato un nuovo palinsesto. Ripeto, no, ripeto. No, abbiamo già capito. Mattino 24 abbiamo c'è questo capito. Signore che si chiama Milan, che non si capisce cosa c'entra, trasmette da Milano, ma si chiama Milan, anche qui è una cosa incredibile. Faremo Buongiorno Operaio, conduce Landini. Mix 24, questo signor Minoli, non ricordo io, Minoli, sostituito da Mix Operaio. Tony Negri lo abbiamo chiamato da Parigi e sostituirà in quella fase. Vai, poi. Focus Economia, Barisoni, appunto, dicevamo, cosiddetto vice direttore di questa radio, sarà sostituito dalla trasmissione Padroni Addio con la signora Faranda, persona illuminata, no, straordinaria, Adriana Faranda, va, certamente. Al posto della Zanzara, nella, come dire, fascia di massimo ascolto radiofonico, Mario Capanna, il sottoscritto, condurrà una nuova trasmissione dal titolo Tecniche di Guerriglia Operaia, in cui spiegheremo come si fanno le bombe, come si occupano le università, come si occupano le fabbriche e si distruggono le macchine della produzione operaia. Ecco, questo è per ora. Bah. Allora ragazzi, dovete sapere che qui davanti, poi riprendo sui profughi sciatori, sì, sul fatto che noi con i nostri denari paghiamo, col consenso anche di Parenzo, i corsi di sci ai rifugiati. Scusami. Corsi di sci ai rifugiati. E infatti bisognerebbe pagare corsi di nuoto nelle località di mare. E giustamente con i nostri soldi, otto richiedenti asilo ospitati dalla Caritas in un'ex caserma hanno usufruito di un'ora di lezione gratis. Benissimo, almeno ancora sulle piste fare. Con materiale in prestito. Ottimo, non mi pare una cosa così scandalosa. Dai, anzi, su, ragazzi, non mi pare scandaloso, anzi. Ma c'è un sacco, adesso io non voglio fare il leghista perché non lo sono, ma c'è un sacco di gente che si paga con i propri denari i corsi di sci, un'ora per... C'è gente che non si può permettere di pagare un maestro di sci, non dico neanche perché devo vedere un signore aspirante, cioè che è richiedente asilo, che con i miei soldi si fa un'ora di sci e viene pure foto. Non mi pare che sia il sociale, no? Quindi mi pare una grande spesa che intacca i bilanci dello Stato. Comunque, no? Ragazzi, diciamo la verità. Qui non c'è più religione. Di fronte, adesso speriamo che poi non ci sia bisogno di chiamare la polizia. Di fronte alla sede del Sole 24 Ore a Milano in via Monterosa 91, via Monterosa, dove fra poco si insiederà il signor come si chiama? Capanna. Mario Capanna, certamente. Sì, siamo già qui pronti con la nuova trasmissione. Ma no, ma lasci perdere. Chiuda un attimo sto microfono, Capanna. Allora, di fronte c'è una casa occupata dove c'era lo storico derby. Questi signori dei cosiddetti, stavolta lo dico io, centri sociali, che andrebbero chiusi tutti quanti domani mattina se i locali sono occupati, cioè i posti del comune vanno requisiti dal comune e utilizzati per fare qualcos'altro, utilizzati per darli ai poveri per esempio, sì, darli ai poveri ovviamente secondo le graduatorie eccetera eccetera. Comunque questo è un altro argomento di cui non me ne frega niente. Passavo stamattina, ho messo il motorino là davanti, anzi no, l'ho messo di fronte, a dire la verità, ho visto un cartellone dove c'è scritto 28 gennaio 2016, questi che occupano abusivamente uno stabile. Milano ama la libertà, respingiamo razzisti e nazisti. Ore 18, Pagano, che è dov'è la metropolitana Pagano. C'è la foto di Marine Le Pen con Salvini, con una barra, no? Come dice, vietato, mai con Salvini and Le Pen. Amici della Digos, tanto lo sapete, amici della polizia, mi raccomando, amici della polizia, se non lo sapete ancora ve lo dico io, qualche signore prepara per il 28 qualcosina. Una manifestazione, dai. Beh, per carità, se è autorizzata, per me non dovrebbero autorizzare nulla, in quel momento, in quel giorno. No, quel giorno no, non bisogna autorizzare nulla. Comunque, c'è un cartello con Marine Le Pen e Salvini praticamente dipinti come due nazisti, perché c'è scritto respingiamo razzisti e nazisti, no? Ma per carità, va benissimo, non dovrebbe io voglio solamente che tu la libertà assoluta assolutamente di... voglio quindi... avvertire però i signori amici della polizia che già sapranno, i signori amici dei carabinieri che sapranno tutto, c'è qualcuno che vuole andare alle ore 18 quando ci sarà la Le Pen con Salvini eccetera a fare non so che cosa, comunque indagate. Altra follia che ho letto oggi, pare che l'Europa voglia accogliere anche i profughi climatici. Amico mio, i profughi, cioè praticamente se uno viene qua e dice guarda fa troppo caldo in Chad, beh non è così, fa molto caldo in Chad, cioè non posso stare con questo caldo oppressivo, con questo caldo che mi distrugge la vita, con questo caldo che mi opprime la mente, che non mi fa progredire, accoglimi, voglio venire in Italia. E tu dici, prego, lei è un profugo climatico. Sì, non è proprio così, ma quasi, quasi. Sempre a proposito di froci e dintorni, froci, insomma, omosessuali, coppie, adozioni, tutte queste cose di cui si parla, due coglioni pazzeschi in questi giorni, io ripeto la mia posizione, cambiare la costituzione di una riga ed equiparare matrimonio eterosessuale a matrimonio omosessuale, basta chiacchiere, basta discussioni inutili, la Chiesa, i democratici cattolici, questo, quell'altro, non me ne frega assolutamente nulla, se uno ha il coraggio e le palle, cambia come ha fatto in Spagna la Costituzione. Comunque questa è la mia posizione che ribadisco. Grande scontro tra Gasparri e una mamma arcobaleno, meraviglioso, Gasparri è un grande attore, eh? Gasparri contro una mamma arcobaleno, che sarebbe praticamente una lesbica, credo, da quello che immagini. Mamma arcobaleno versus Gasparri. Se io dovessi morire prima dei miei genitori, i bambini non erediterebbero nulla dai miei genitori, perché non si crea una relazione parentale. E i fratelli che comunque vivono all'interno di quel nucleo familiare non sarebbero fratelli tra di loro. Dove per noi famiglia sia una coppia omosessuale che ha figli e sia una coppia omosessuale che non ha figli, per rispondere un attimo. Non è una scioglilingua, mi permette, è una vita. Io le sto raccontando la vita. Guarda, onorevole Gasparri, mi perdono, ma io non ho fatto, però veramente, ma non è uno scioglilingua. Uno scioglilingue. Effettivamente, quando viene presentata questa cosa dell'adozione dell'altro coniuge, del compagno, eccetera, è un po' complicata la cosa. È un po' complicata per Gasparri, probabilmente. Per la gente normale, per Franco da Udine, per Marco da Torino, per Antonio da Bubù, per Francesco da Racalmuto, no, è semplice da capire. Oh, buon anno, equipara i profughi ai cani randagi. Oh, buon anno. Secondo me i clandestini o i profughi, come vogliamo chiamarli, a seconda delle situazioni, gli metterà il microchip e così siamo tranquilli. Come si fa quando ci sono, anche se il paragone è un po' forzato, con i cani che ci sono in giro randagi, no? Adesso mettono il microchip. Capito, Parenzo? Capito? Sì. Allora, è rispuntato signor Verdini. Riparla Verdini. Allora, adesso è tutto chiaro, Verdini appoggia Renzi, però devo dirti che questa discussione non mi appassiona. Non è una novità, però, scusa. No, non è una novità, però l'ha detto in maniera molto esplicita. L'ha detto noi, negli ultimi mesi, con ALA, che è la formazione di Verdini, il governo va avanti. Ma perché devo ascoltare Verdini? C'è un motivo per cui devo... Vabbè, dai, ascoltiamo Verdini. Del concetto leaderistico e della leadership in senso positivo in Italia ce la porta Berlusconi, scopiazzato poi da tutti, no? Dai vari Rutelli, Prodi, mettendo i nomi nei simboli, i grandi manifesti, quindi è intenzionato a fare una rivoluzione liberale, quindi nessun pentimento, un uomo così lo si ama, lo si apprezza e quando lo si lascia si soffre. Quando si lascia Berlusconi si soffre, però non posso più ascoltare Verdini, non ce la faccio, traffico. Il traffico è il problema. La zanzara. Apriamo, dai, apriamo con Roberto da Brescia. Roberto, apri le gabbie. Roberto, dimmi. Buonasera. Vai. Allora, no, Cruciani, questa volta ti do pienamente ragione. Su che? Perché sugli immigrati che facevano, se è vero, ecco, non lo so, bisogna sempre appurare. Però dico, Parenzo, è ora anche un po' di eliminarlo, perché sì, bisogna cominciare a picchiarlo. Eliminarlo come? Su, picchiarlo ed eliminarlo. Eliminarlo no, però picchiarlo sì. Sì, prima hai detto eliminarlo, poi dice eliminarlo no. Perché devo picchiare Parenzo, scusa? Dovrebbe essere un format, picchiare Parenzo, però mi sembra un po' eccessivo, francamente, o no? Ma insomma, Parenzo è un po' troppo adesso, ho capito che bisogna accogliere, bisogna essere... Secondo lui è giusto pagare, sempre se la notizia è vera, perché poi circolano tante cazzate, no, per carità però di abbiamo Dio. Visto le foto, magari è tutto costruito ad arte, non lo so, certo, però... Certo, allora, certo. Qualora fosse vero che richiedenti asilo migranti sì, gli viene viene impiegata un'ora del loro tempo per imparare a sciare, no, ma che cazzo ci fanno con lo sci? Non mi pare una cosa grave e degna di scandalo, no, Parenzo, perché gli scandali sono altri, caro, no, non so come si chiama questo, questa sciare, prima gabbia aperta ti mandano a fare i lavori socialmente utili, che faranno anche quello, ma un'oretta, ma gratis, di sci, però, visto no, che stanno gratis, in montagna non è quale, che, anzi li tiene anche impegnati dal punto di vista fisico, li scarica, sì, così quando si leggono il Corano così quando si leggono il Corano battono la testa della dai Parenzo, insomma. Ma chi è questo? Come si chiama questo? Roberto da Brescia. Va bene. Roberto. Vabbè, Roberto Brescia è uno di quelli che appena sentito questa notizia c'è subito telefono 800 24 00, certo, gli è roduto anche il culo, gli è roduto anche il culo, devo dirlo, certo, devo dirglielo. Ma perché lo devi disprezzare così? Non prendermi in giro per il mio accento lombardo. No, ma mica lo si disprezza. Bresciano, no, lombardo, bresciano, bisogna sempre specificare. Vabbè, insomma, non ho capito, ti rode il culo o no, Roberto? Non ho capito bene. No, io non sono culo, scusami, io vado ancora dalla parte del... No, però, però no, è un'espressione romana, ah, no, non avevo capito, hai ragione, forse perdonami. È un'espressione romana, sì, farsi rodere il culo, il rodimento di culo. Ce l'ho perché dico con la gente che non arriva a fine mese, ma non per essere salviniano, perché ma io Salvini c'entra? Non lo sopporto. Però scusami, con tanta gente in difficoltà, con lo Stato che sta andando male, dobbiamo preoccuparci oltre all'accoglienza anche all'aspetto ludico di queste persone e pagargli pure le lezioni del sci? Ovviamente bisogna appurare prima che effettivamente sia così, però se fosse così, caro mio Parenzo, questa volta stai toppando la grande, perché non sono io che devo pagare con le mie tasse. Ma non, infatti, con non miei... è lei, caro Bresciano. Sì, indirettamente, sì, perché no, ci sono la regione autonoma del Trentino. Cosa vuol anche dire? Alto Adige. Ma la regione autonoma Trentino Alto Adige prende anche i contributi che noi italiani paghiamo, certo, così, dopo dai. Che loro siano bravi. Comunque, che loro se non si lamentano i trentini di questo, non capisco perché tal Roberto da Brescia debba... mi rode il culo, cioè, scusami, hai imparato un'espressione, questo mi fa bravissimo. Esatto, romanesca. Gianfranco da Latina, Gianfranco, vai. Buonasera a tutti. Vai, dimmi. Ecco, io volevo soltanto dire una cosa. Per portare a sciare la mia figlia, cioè la figlia della mia compagna... Per portare a sciare, la figlia della mia compagna, pago 54 euro l'ora per la lezione di sci perché è disabile. Dovrebbe essere gratuita, ad esempio? Cioè, ma la... non è gratuita. Dovrebbero, per chi è portatore di handicap, dovrebbero esserci delle facilità. Questo non c'è un po' di dubbio dal punto di vista sociale. Questo non no, c'è no, dubbio. No, 54 euro l'ora. Sbagliato, dovrebbe anche essere... ringraziare che trovo pochissime strutture male che tra l'altro devo anche ringraziare perché fanno un bellissimo lavoro, però esatto, pago 54 euro troppo l'ora. Non dovrebbe pagare e dovrebbe dunque? Essere servito dallo organizzato. Vabbè, dallo ma Stato. Questo d'accordo, dunque Gianfranco? No, niente, mi rode terribilmente il fatto che delle persone che vengono da fuori abbiano, diciamo, gratuitamente delle cose che magari anche per noi italiani potrebbe essere, o per alcune categorie di italiani potrebbe essere... Per alcune categorie, esatto, bravissimo, sì. Sono d'accordo con lei. Cioè, non, sinceramente non mi sta bene. Sono d'accordo con lei. Poi non ho capito per quale motivo, cioè, tutti questi immigrati che vengono in Italia, sentivo dire anche da Parenzo l'altra sera che serve anche all'Italia avere tutti questi immigrati. Ma lo Stato italiano, anziché pagare per avere tutti questi immigrati, potrebbe... facilitare un po' di politica familiare. Vabbè, questi sono altri discorsi, dai. Alessandro, sì, da Torino, vai. Okay, Alessandro. Ciao. Sì, pronto, ciao. Dimmi. A parte che ho sentito la telefonata di quello prima di me, io sono disabile, a me che come si dice, che i richiedenti asilo siano andati a sciare, a prendere una lezione pagata a noi, non me ne frega nulla. Io a sciare non ci voglio andare, e se ci dovessi andare vorrei pagare come stanno tutti. Questa è solo una questione di dignità, ma è un altro discorso. In realtà io telefonavo per il discorso del fatto di Colonia. Sì. No? Che vuoi dire ancora? Che non è, che già non è stato detto, dimmi. Ah no, volevo dire questo. Io ho chiamato ieri, poi io ho richiamato oggi. Semplicemente che bisogna non comprendere, ma capire cosa? Che per questi qua noi siamo infedeli. E allora? E allora si permettono di fare cose che in altri posti... Vabbè, ma l'abbiamo già detto mille volte questo. Alessandro, cosa hai da aggiungere a questa storia? E dov'era? Gli uomini dov'erano? Vabbè, ma è vecchio questo discorso. Dai, Bruno, Bologna, allora, vai. Bruno, Bologna, Bruno. Sì, salve, buonasera a tutti, grazie. Dimmi. No, io in realtà l'ho chiamato ieri per intervenire sulla... Aridaia, non me ne frega niente, parla, di quello che devi dire, forza. Certo, no, due cose velocissime. La prima è su Parenzo, quando parla degli animali del circo. Io non sono animalista, però diciamo che ho un concetto, credo, abbastanza chiaro. Non si può dire che un elefante o una scimmia o che è contento solo perché ha da mangiare gratis. Parenzo, la domanda è: sarebbe contento se chiudessimo in una gabbia a Radio 24 e gli dessimo da mangiare gratis? Beh, praticamente è così. Il leone, il leone del circo è trattato meglio di me. Io devo lavorare dalle 18, dalle 17.30. Vieni fuori capanna. Io devo lavorare dalle 17.30 alle 21, dal lunedì al venerdì. Il leone lavora 5 minuti, ma neanche al giorno. Lavora 5 giorni a settimana per 5 minuti. Quanto fa? 5, 10, 15, 20? 20 minuti in una settimana. Però, al di là dei paragoni. Trattato meglio di me, sicuro il leone. Ma non dire cazzate. Allora, al di là dei paragoni che si possono fare, Bruno, ma lei sbaglia tutto in partenza, perché non si può paragonare in questo caso Parenzo a un elefante, no, perché sono due cose diverse. No, sono due cose diverse. Lei dice quanto sarebbe felice Parenzo in gabbia con la gente, no, che lo applaude magari per vederlo saltare, o che lo spama per vederlo saltare. Ma è una cosa diversa, perché l'elefante è una cosa e Parenzo è un'altra cosa. Cioè Parenzo come essere umano, ma potrei essere io. Sono due cose diverse. Parenzo è un gradino più sopra, cazzo. Lo volete capire o no? Cioè un gradino, adesso diciamo un gradino, cioè più basso in altezza, diciamo, dell'elefante, ma anch'io sono più basso in altezza. Ma è una cosa diversa, cioè è chiaro che un essere umano sarebbe prigioniero e dovrebbe essere liberato, e dovrebbe essere liberato, perché non si può mettere dietro le sbarre, a meno che non abbia ucciso, non abbia commesso reati, un essere umano. Invece l'elefante lo possiamo mettere, per fortuna lo possiamo mettere, e ci sentiamo dopo, dai. Siete criminali. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri. Settimana particolarissima quella del Falco e il Gabbiano. Iniziamo la settimana dedicando due giorni al Duca Bianco, a David Bowie. E continueremo con Hiro Onoda, il giapponese per il quale la Seconda Guerra Mondiale è durata quasi 30 anni più degli altri. E poi a Siba Bulmerka, l'atleta che con le sue medaglie d'oro ha sconfitto il fondamentalismo islamico. E per finire uno dei grandi volti del cinema italiano con una vita piena di sorprese, Adolfo Celi. Tutti i giorni alle 15.30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Luciani, ti devo raccontare quello che è successo oggi, veramente il top. Stavo all'università, alla Bocconi, e praticamente all'improvviso mi suona la suoneria al telefono. Ma non è che una suoneria normale, io ho un mix di insulti tra Parenzo contro Mauro D'Amantova e Donato da Varese. E quindi inizia a squillare la suoneria con Mauro D'Amantova che gli dice: coglione, coglione! Io subito spengo subito il telefono. Il professore si gira, mi aspetta una cazziata pazzesca. Il professore risponde: ma chi è? La Zanzara con quello lì da Mantova. Beh, veramente, veramente il top, diciamo, il top. Alle 19.20, caro Parenzo, andiamo con Luca da Pescara. Vai Luca, vai, vai. Ciao, senti, chiamo per la questione circhi animali. Sì, che c'è ancora da dire? Io non vi ho seguiti ultimamente per lavoro. Ho dedotto dalla telefonata di poco fa di uno spettatore, sì, che Parenzo abbia detto ha fatto l'elogio del circo, sì. Sì, certo. Allora ci mancherebbe. Grande l'arte circense da difendere, assolutamente. Sì, senza grandi animali, gli acrobati, sì. Grandissimi. Vabbè, allora, gli Luca, animali. Grandi acrobati senza animali, io penso questo, semplicemente. Sì. Mi meraviglia che di solito sono sempre d'accordo con Parenzo e mai con te. Cioè, questi sono i diritti degli immigrati, dei migranti, sì, eccetera. Però stavolta Parenzo mi ha deluso proprio. Cioè, penso che esiste un solo dogma. E qual è? Che è questo, cioè che ogni essere che soffre, sì, non può essere ignorato nella sua. E chi te l'ha detto che soffre? Sta benissimo. Nel circo, qualsiasi etologo ti direbbe che, scusami, entomologo ti direbbe che un leone chiuso in gabbia, sì, in un ambiente, in un habitat che non è il suo, soffre. Di conseguenza, a parte che anche se dicesse questo, io dico, io me ne fotto degli entomologi, degli etologi, quello che è. Ma me ne fotto totalmente. Ma comunque è tutto ma io me ne fotto di te. E vabbè, te ne fotti di me, non mi pare perché chiami. Non mi pare perché chiami, dunque non te ne fotti. Per informare gli spettatori, radioascoltatori. Lui chiama per informare, capito? Lui chiama per informare. Tu sformi l'informazione, io informo l'informazione. Mamma mia, ragazzi. In conseguenza, vabbè, ogni essere umano che soffre, al di là delle cazzate che stai dicendo, ogni essere umano che soffre. Non dico io queste cazzate, dico un principio basilare, che è il principio dell'etica dell'essere umano. Certo, dunque, quelli che sono a favore dei circhi, quelli che sono a favore dei circhi, dunque sono dei coglioni, sono dei assolutamente sì. Immorali, scusami. Una cosa, mi meraviglia di te, Parenzo, porca miseria, mi fai arrabbiare stasera. Sì. Che sei ebreo. Ma che c'entra questo col circo? No, c'entra, senti, fa il paragone tra la sofferenza degli ebrei dell'olocausto e la sofferenza degli animali. Senti il genio. Siamo impazziti. Sei ebreo ed è per questo che dovresti essere sensibile, non solo ignorante. Senti il genio, aspetta. Sensibile a questo argomento. Perché dovrebbe essere sensibile? La sofferenza di un essere vivente, a prescindere dalla specie. Ah, tu stai dicendo che la sofferenza degli ebrei durante l'olocausto è paragonabile alla sofferenza degli animali? No, perché sono specie animali differenti. Quelli erano umani, questi sono non umani, ma la sostanza non cambia. Certo, se un animale non è umano, il quid è la stessa. La sofferenza degli ebrei è uguale alla sofferenza degli animali. Vabbè, chiudiamo tutto. Ma perché? Vivente, al di là della propria specie. E questo non lo dico io, lo diceva il grande Leonardo da Vinci, lo diceva Prevé, lo diceva... Sì, benissimo, ma i cani che sono in casa, i cani che vengono tenuti in casa dalle persone che tengono i cani? Ma non sono molto d'accordo. Ah, bene, non sei d'accordo sui cani in casa. Ogni essere deve essere, rispettato. Ma sì, ma perché allora, ma è giusto vedere passeggiare gli elefanti per le strade? Perché no? Perché non vedere passeggiare gli elefanti per strada, le tigri, i leoni, i rinoceronti? Una tigre lasciata in un centro urbano abitato sarebbe un pericolo per l'essere umano. Certo, ma allora vedi che una differenza c'è. Vedi che va riportata nel suo habitat, certo, perché sei sicuro che qui invece dentro i circhi soffre come una bestia. Giusto? Assolutamente sì. Soffre, certo. Benissimo. Ma perché lo dico io, lo dice qualsiasi studioso delle specie animali. Soffre. Cioè, tu allora dimmi perché tu che ne sai per dire che non soffre. Ma guarda, io te l'ho detto che anche se soffrisse non me ne fregherebbe nulla. Ma è un nazista, è ovvio. Certo. Sì, beh, certo, è un nazista. Certo. Guarda che l'elefante nel circo, che gli si chiede per 5 minuti di sedersi e di fare l'inchino, gli viene dato anche lo zuccherino. E guarda l'umano come fosse un idiota. L'elefante è lusingato. Gatto di stare lì applaudito dai bambini, ma che scherzi! Ha il diritto di vivere libero, di non gli si rompa i coglioni. Ma non mai tutto contento, lì lavato, pettinato, pulito. Il umano che spesso non si comporta bene contro gli animali stessi, quindi non rompiamo le palle. Vai, Luca, vai a togliere i cani dalle persone che hanno in casa i cani. Vai a togliere tutti i cani. Ma vai a liberare i cani. La grande liberazione dei cani, beh, stupendo. Luca, vai a liberare tutti i cani. Capito che con delle persone come voi, reazionarie, l'umanità non avrebbe fatto un passo in avanti. Ah, reazionarie, certo. L'ascoltatore ha usato una parola giusta, reazionarie. Sotto, che ne so, nel 1789, siete contro la rivoluzione francese, perché sei stato calato nei valori del tempo. Come lo stai dimostrando? Questo è arrivato a citare la rivoluzione francese, capito? Fa un esempio. A parte che l'entomologo non siamo migliorati, purtroppo non siamo migliorati, no, siamo rimasti lì. Reazionari. Sì, siamo reazionari, conservatori, certo. Reazionari. Sì, certo. Tu sei un reazionario, Parenzo un conservatore. Ciao Luca, ciao. A grande richiesta, abbiamo chiamato un centro dove organizzano le feste, caro Parenzo. Le feste di compleanno per i cani, un centro a grande richiesta. Club, buonasera. Sì, buonasera. Ho letto da qualche parte che organizzate dei compleanni per i cani. Sì, esatto. Magnifico. No, meravigliosa questa cosa. Volevo capire, ma quanto costa un compleanno? Sì, allora, fino a 10 cani viene €80 solo l'affitto dello spazio. Dovrebbe invitare gli amici del parchetto con cui di solito gioca. Ah, gli amici del parchetto con cui gioca. Le posso confessare una cosa? Il problema è che il mio cane sta morendo. Ah, ok. Io voglio organizzare questa cosa quanto prima. Adesso fa 3 anni la prossima settimana. Sì. cosa si può fare? Ma voglio organizzare una cosa in grande stile, perché magari trovate voi altri cani. Ma quello assolutamente, magari cani molto tranquilli, insomma, che non siano troppo irruenti, se già lui non è uno. Ma no, perché sta un po' male, ha capito? Sta un po' male. Le passo un attimo il mio compagno, che è quello che ha veramente il cane, che le deve dire una cosa importante, però. Un attimo, ci sei, Franco? Pronto? Sì. Eccomi, sono Franco, buonasera. Buonasera. E forse il mio compagno le ha già parlato dei tempi stretti che abbiamo... Per questa cosa terribile. No, è possibile eventualmente avere soltanto dei cani maschi? Sì, possiamo cercare di organizzarlo. Perché poi il nostro cane, Dildo... Ecco, diglielo. Dildo, diciamo, è omosessuale, quindi... Ok, vabbè, non è un problema. Diciamo. Non è un problema per voi? No, perché tutta questa cosa adesso del riconoscimento dei cattolici Dem, che non, del PD, che non vogliono... No, vabbè. No, lo dicevo perché ho letto anche sui giornali oggi che sono i cattolici e il Partito Democratico. Ma che c'entra quello, Franco? Ah, no, sono le coppie normali. Sì, no. Vabbè, però, capito, però. Magari loro hanno degli ostacoli a avere un cane gay, non lo so. No, ci mancherà. No, chiedo, non lo so. Ma le torte le fate, le torte? Sì, certo. Quanto potrà costare il tutto? Allora, guardi, non glielo so dire, cioè... Vabbè, ragazzi, questo cane qua purtroppo vuole solo maschi intorno, io che devo fare? Mi dica lei se è possibile. Lo so, cioè, che... se vi crea imbarazzo al negozio, andiamo da un'altra parte. Insomma, se il fatto che noi siamo gay, anche i cani, noi non. Ma ci mancherebbe, io ho un sacco di amici gay, si figura. No, anche cani gay? No, ecco, quelli non saprei neanche come poterli riconoscere. Lì bisognerebbe capire, cioè, no, beh, è facile riconoscere invece, perché i cani maschi gay, specie ai giardini, si annusano. E si accoppiano solo con. E sì, appunto, questo è. Sì, ecco, non c'è mai successo, però per carità, viviamo in tempi moderni. Modernissimi, sì. No, mi preoccupavo il fatto che appunto, siccome... Ma durante le vostre feste ballano insieme questi cani, che fanno? Importante questo, perché sa... Non è che ballano, giocano tra di loro, sì. E passano del tempo insieme e si divertono, ecco. A lui piace molto la musica di Madonna, per esempio, si può mettere? È ovvio, e chi poteva, se non Madonna, è evidente che debba piacergli Madonna, giustamente. Madonna, Tiziano Ferro. Certo, poi la compilation la scegliamo insieme, non c'è nessun problema. Va bene, allora, molto gentile, grazie. Buonasera. Arrivederci. A me la cosa che mi fa impazzire è: viviamo in tempi moderni. Cioè, la risposta di questa gentile signora che organizza compleanni per cani, capito? Compleanni per cani, vada, i matti sono dei geni, però, eh. Devo dire che sono dei geni, perché c'è gente che molla il quattrino per vedere il proprio cane con una, magari con una parrucca in testa, no? Con un affare in testa, con tutti intorno che gli fanno la festa, e poi giocano tra di loro, capito? Giocano tra di loro in una sala, come quando tu porti, no, tua figlia alla festa di qualche amichetta di scuola. Sì, certo, lì c'è il l'animazione, cane insieme ad altri cani, e tutti intorno applausi, bene. Io ho visto una foto che mi hanno mandato con una torta con una candelina. No. Ecco, ci siamo dimenticati di chiedere la candelina, se effettivamente si possono mettere le candeline. Col cane che sta lì e soffia sulla candelina, io divento pazzo. Non può soffiare il cane sulla divento candelina, pazzo, dai, ha divento paura del pazzo. Fuoco il cane, poi. Ah, Marco da Latina, dai, Marco. Buonasera, signor Cruciani. Dimmi. Allora, vabbè, questa cosa ultima, veramente, io penso che non è vero che stiamo in crisi, che ci abbiamo problemi. Non è vero niente. E questo fa pensare, è vero, che non siamo troppo in crisi. Se c'è gente che spende, giustamente, perché bisogna sempre spendere, è importante spendere per l'economia. Io ho due cani a cui tengo tantissimo, però io devo far fare i cani. Stanno fuori, stanno in campagna, dentro casa non vengono, non gli metto la mantellina quando vanno a spasso, non gli metto il belletto, non gli faccio spegnere le candeline, ma probabilmente sono più cani miei che quell'altri. Qua c'è tutta una confusione. Vabbè, comunque. Questo è relativo. Io volevo, se lei mi consente, dire due parole su questi benedetti signori di questi migranti, come vengono chiamati, gli extracomunitari, ai quali paghiamo il maestro di sci. E dico questo, io sono 12 anni, poi non so come quel signore che ha telefonato prima, che cita Prévert, Dante, James Joyce, tutte queste cose. Allora? Forbite. Io porto esempi semplici. Io sono 12 anni che non vado in settimana bianca. Ma non perché non posso spendere i 1.000 euro, i 2.000 euro, oggi stanno tante formule, perché devo stare in prima linea, devo stare, io c'ho un'aziendina. Vabbè, ma cos'è che ti ha sconvolto di questa roba qua? Anche se poi i maestri di sci mi dicono che hanno fatto tutto loro gratuitamente. E allora basta polemiche. No, pare non ci siano, pare non ci siano, non ci siano soldi pubblici, soldi polemiche. Allora bene, bravi questi istruttori di sci, basta polemiche. Mi risento perché penso che abbiamo problemi ben più seri del compleanno dei cani, non dei cani, del compleanno dei cani, e abbiamo problemi ben più seri. Vabbè, quello lo sappiamo che ci sono problemi più seri, però adesso che cazzo ce ne fregano. Infatti non è un problema suo, perché i maestri di sci mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze per fare una cosa buona. Sì, fanno bene, però signor Parenzo, se mi consente, io la prima volta che sono andato a sciare, cioè avevo 14 anni con la scuola, e papà mio mi diede dei soldi da portarmi dietro perché dovevo pagarmi il maestro da sci. Cioè è abbastanza curioso che a prescindere dal fatto che non ci sia stato denaro pubblico speso per far andare a sciare gli immigrati, è abbastanza curioso che ci sia gente che non se lo può permettere, mentre questi signori, che per carità saranno anche dei disgraziati, siano lì a farsi fotografare tutti belli con le loro tute e con i loro sci. È abbastanza curioso, dico io. Sì, ma sarà poi anche polemica, però questi signori che danno gratis lezioni di sci agli immigrati, beh, insomma, potrebbero pensare anche a qualcos'altro, no? Cioè, ci sono tanti disgraziati che magari hanno bisogno di una lezione. Attenzione, attenzione, la parola disgraziato mi impone di intervenire per dare il nuovo palinsesto della radio 24. Dopo lo daremo. Capanna, perché accende la radio ogni volta a cazzo Pro di cane? Radio degli operai in vista dell'elezione del nuovo presidente della Confindustria. Fermo. Candida. Ottima trasmissione, sempre la migliore. La Zanzara. Sì, sei bruttino. Cruciani, fatene una ragione, cioè, che tu sia simpatico, sei arguto, delle volte dici veramente delle minchiate, scusami, che non stanno né in cielo né in terra. Allora ragazzi, poi uno si arrabbia, si incazza, ditelo come volete, no? Questa mattina, credo durante la trasmissione di Milan, è intervenuto un signore che è il grande capo della riscossione delle tasse in Sicilia. Fino adesso, diciamo, ha riscosso molto poco, magari non per colpa sua, ma chi doveva raccogliere le tasse in Sicilia, cioè l'Equitalia siciliana, si chiama Riscossione Sicilia, poi lasciamo perdere tutte i problemi che ha avuto questa agenzia, eccetera, praticamente ha di fronte un lavoro improbo, perché ci sono poche persone che pagano quello che devono pagare, no? Allora, questo tizio si chiama Fiume Freddo, signor Fiume Freddo. Beh, un bel nome. Sì, nei giorni scorsi cosa ha fatto? Ha stilato l'elenco dei parlamentari siciliani, cioè dei deputati all'Assemblea Regionale Siciliana, che hanno debiti con il fisco, cioè devono chi per una cosa, chi per un'altra, chi per multe, chi per attività proprie, eccetera, dai 2.000, 3.000 fino a 200.000 euro. Alcuni hanno rateizzato, altri si sono fatti pignorare o comunque sono in corso procedure di pignoramento, insomma una vergogna pazzesca, ma non siamo stupiti, è la Sicilia, cioè. Questo Fiume Freddo però ha detto un'altra cosa. Cioè che era prassi in Sicilia, senti qua, era prassi che se uno diventa parlamentare siciliano, senti. Davanti alle robuste porte di Palazzo dei Normanni la riscossione si fermava. Capito? Cioè, ma proprio non arrivavano le cartelle esattoriali. Non venivano inoltrate. Nessuno chiedeva, cioè se lei domattina diventa parlamentare regionale, sa che da noi si chiamano parlamentari regionali, e magari ha una qualche pendenza, da quel momento lei può dormire sonni tranquilli perché noi non la cercheremo più. Cioè questa era la prassi, tranquillamente confessata da un tizio che dovrebbe essere il capo della riscossione. Ne sa. Se tu diventi parlamentare siciliano, i funzionari del fisco magari se la prendono col cittadino normale che ha un'azienda in difficoltà, eccetera, eccetera, però si dimenticano del parlamentare siciliano. Se uno deve, il parlamentare siciliano, perché ne so, non ha pagato 20 multe, non ha... No, la sua azienda deve dei soldi al fisco per X motivi. Quelli dice, vabbè, ma stai tranquillo, tu sei parlamentare siciliano, noi che cazzo ce ne frega? Rompiamo i coglioni ai cittadini. Te ti lasciamo tranquillo lì. Ragazzi, ma è una roba che uno dovrebbe fare intervenire l'esercito di fronte a queste cose. L'esercito. Poi probabilmente non l'ha fatto questo Fiume Freddo è, se l'ha detto, evidentemente non è lui il responsabile, ma bisognerebbe andare a prendere tutti quelli che sono venuti prima di lui. Allora io non ce l'ho con gli animalisti, per carità, non ce l'ho, e anzi qualcuno mi dice sei ossessionato, parli sempre di animali, eccetera eccetera. È morto un cacciatore, non mi ricordo dove, l'ennesimo cacciatore, non mi ricordo per quale motivo, è morto per un incidente durante una battuta di caccia, perché partì, è scivolato, è partito il colpo di fucile ed è morto dissanguato vicino a Treviso. Allora, su Facebook, nel sito di 100% Animalisti, sono apparsi questi commenti. Nessuna... 100% Animalisti sono praticamente gli ex fascistelli, no, mo cavero, quello eh, lo dici tu, mocavero, sì, sì, sì. Ma sono le donne quelle più, sono le donne quelle più accanite. Cioè, quelle più accanite, quelle più cattive, sono le donne. Nessuna pietà per chi porta la morte, Paola Ceccon. Un'altra che si chiama Teresa, nessuna pietà per gli assassini di poveri animali innocenti. Un'altra che si chiama Monica, tutte donne, eh? Non merita pietà chi toglie la vita, dovete morire tutti bastardi. Un'altra che si chiama Simonetta. Nessuna pietà, solo champagne quando crepa un assassino pervertito. Qualcosa in contrario? Aspettiamo sempre questa Simonetta. Aspettiamo il prossimo coglione, l'autoestinzione. Un'altra che si chiama Margherita Beg, naturalmente, cioè vegana, Margherita Beg. Due parole per il cacciatore morto, godimento e goduria. Un'altra che si chiama Claudia, che serva da lezione ad altri cacciatori, ha avuto la sua lezione. Poteva, io non riesco nemmeno a leggerle queste cose, capito? Poteva restare a casa con la sua famiglia, l'inferno deve finire. Io non riesco nemmeno a leggere, perché sono un'altra Angela. Se stava a casa con la sua compagna era vivo, mica è morto sul lavoro, è morto perché andava ad uccidere. Ma vaffanculo, va. Allora andiamo. Federico, provincia di Genova. Sì, vai Federico, buonasera. Dimmi. Buonasera. Allora, l'ultima cosa che è stata letta, cioè io sono un animalista. Sì. L'ultima cosa che è stata letta è molto grave, ci vuole rispetto per la vita di tutti. Ma quelli sono come te, sono animalisti come te, si dichiarano animalisti come te, amanti degli animali come te. Sono animalisti, ma sono anche degli imbecilli, perché non si augura la morte a nessuno. Detto questo, sull'argomento circo, va bene che sì, Parenzo diceva prima che l'elefante spettacolo straordinario diede... straordinario spettacolo, no, ha detto che gli animali, sono trattati meglio nel circo piuttosto che in libertà, diciamo. Sono puliti, stanno lavati, meglio da mangiare piuttosto che, allora, liberi. È interesse del circo che l'animale stia bene, sia vigile, sia... Vabbè, Federico, allora non c'è dubbio. Allora il discorso è questo, andatevi ad informare per favore, ci sono fior fior di inchieste che le ha fatto la PETA, sì, che è un'associazione animalista, appunto, fior fior di inchieste con tanto di filmati, sì, che fanno vedere come vengono fatte quelle cose, come vengono addestrati gli animali usando elettroshock. No, Federico, se qualcuno utilizza gli elettroshock per addestrare gli animali, va preso e non dico incarcerato, ma insomma deve essere condannato. Cioè, a me di queste cose qua non me ne frega niente. Se qualcuno scopre che questi fanno delle robe contro gli animali che non sono previste dalla legge, va preso e mandato al gabbio, ma chiaro? Tanti, e vabbè, tanti, Federico, fate le vostre azioni, fate le vostre cose, eccetera, eccetera. Ma il punto non è questo. Il punto è che la maggior parte di queste associazioni si battono contro l'idea del circo, certo, come principio, capito? Cioè, al di là dei contro l'idea del circo è sbagliato, ma purtroppo spesso l'idea del circo racchiude quel tipo di comportamenti. Sì, ma è come dire siccome in una scuola ci sono, no? Siccome in una scuola ci sono, no, le violenze all'interno della famiglia, sciogliamo la famiglia, cioè, che vuol dire? È evidente che ci sarà qualcuno che fa gli elettroshock nei confronti degli animali, che li maltratta, evidente, eccetera. Non lo so se è evidente. Non so nemmeno se sia evidente. Circhi, se qualcuno, ma l'estremismo non va mai bene in nessun campo, però questa vostra ostinazione ad avercela con gli animali. Ma io non ce l'ho con gli animalisti, diciamo. Posso essere a favore del circo, certo, senza essere etichettato come un pericoloso nazista che vuole la sofferenza degli animali? Cioè, Federico, no, ma certo, ma allora, ma adesso non ci possiamo, a mio parere, non ci possiamo preoccupare anche della sofferenza degli animali. Sì, è vero, qualche animale soffrirà un po' più di quanto soffrono gli uomini. Va bene, d'accordo, non me ne frega questa niente. Questa è una tua visione. Non me ne frega nulla, non me ne frega niente. Sì, per carità, se soffrono mi dà fastidio. Però qualche scelta uno la deve fare a un certo punto, no? Cioè, anche per quello che riguarda, per esempio, la sperimentazione. Uno fa una scelta di privilegiare l'uomo con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi mali, con tutte le sue nefandezze, però... eccetera, eccetera. Roberto da Roma, ciao Federico, Roberto Roma, vai Roberto. Roberto, vai. C'è o non c'è? No, Pierangelo Pavia, vai. Sì, pronto, mi senti? Dimmi Pierangelo, dimmi. Ok, io sono a favore delle lezioni di sci per, sì, rifugiati in quanto non, quando tu accogli una persona, sì, non è che solo gli dai da mangiare. Quelli, queste persone, tu guarda soltanto i barconi, quante violenze hanno subito psicologiche, anche se gli dai un attimo di felicità, guarda che non muore nessuno. Ma poi gratis, senza costi per il contribuente, come abbiamo appreso con la buona volontà questo di questi, bisogna vedere, di questi, ma guarda, di questi istruttori, cioè, di sci, ma che scherzi. Ma a me, ragazzi, ma può sembrare strano a una persona normale vedere qualche profugo richiedente asilo che non si sa nemmeno se è, come dire, no, legalmente sul nostro territorio o no, essere sorridente con la tuta da sci, no, non in Trentino Alto alla solidarietà della stazione centrale, non è che basta dargli uno che mendica, gli dai un pezzo di panno, gli butti lì una moneta, bisogna avere anche, cioè, un po' di mentalità di accoglienza, vedere anche le sofferenze degli altri. Cioè, se uno viene da un rifugiato politico che viene da violenze, che ha visto massacri, eccetera, anche e se fa un'ora di sci. Anche se gli altri, magari gli fa più bene. Fa un'ora di sci, un'ora di studio, un'ora di palestra, fa un'ora di palestra, studio della lingua italiana. Chi paga? Chi paga? Io la penso così. Se tutti si mettessero a disposizione. Guarda, il fatto che questi maestri di sci abbiano messo a disposizione un'ora del loro tempo per otto persone richiedenti asilo, per fargli passare un'ora sugli sci. Se non ci sia stato denaro pubblico sprecato, è tutto da verificare. Comunque. Trasformare questo in un caso per cui quattro persone che dicono: ecco, ma anch'io vorrei fare. È roba di una follia. Lia inaudita, per criticare addirittura questi professionisti che mettono a disposizione il loro tempo per fare un'opera buona. Ormai è un paese cattivo questo, evidentemente. Un cattivo. Paese cattivo. Paese cattivo, un molto paese cattivo. Beh, sì, dalle telefonate è evidente che cattivo. C'è una parte di paese cattivo. Come si chiama? Antonio Milano, vai Antonio, vai, dimmi. Sì, ciao, sì, Luciani. Sì. E ti volevo dire, io sono uno di quei fortunati che ha vissuto 9 anni in Australia. Sì. E ho visto, e ho provato sulla mia pelle cosa vuol dire vivere al mondo, vivere dall'altra parte del mondo. Ti assicuro che quelli che vengono qua fanno una gran bella vita. Poi se quando sento quelli che vogliono andare a sciare, e dico, cazzo, io sono andato giù, mi sono spaccato veramente l'ano, ho lavorato come un disgraziato, sì, e per avere il permesso di soggiorno giù in Australia io adesso ce l'ho, sono sposato. Non vogliono andare a sciare, su, basta con questa roba, dai, non vogliono andare a sciare, non dire stupidaggini. Ma è già sbagliato lo Stato. Ma non dire stupidaggini, che l'occasione di andare a sciare. Non ma vogliono andare a sciare, basta con questa storia. Ma ti posso chiedere una cosa? Ti posso chiedere una cosa? Non puoi chiedermi niente ora, perché comando io. Tu per andare a vivere devi avere, hai tre possibilità, o ti sposi una persona del posto, o hai delle credenziali alte, il che vuol dire tu hai una professionalità tale che già hanno bisogno, sì, o altrimenti porti soldi. Secondo te questo ti sembra un paese incivile? Cioè, stai parlando dell'Australia, stai parlando dell'Australia, ma infatti io sono d'accordo con l'Australia. Cioè, io negli Stati andate in Australia sono andato tutti nel 91, ho appena finita la NAIA, sono andato nel 91, facevo il cameriere a New York, lo sai che non potevo, o avevo il lavoro, avevo un lavoro fin sopra i capelli. Non potevo rimanere là perché, non avendo la green card, il lavoro di cameriere non era qualificato. Sai perché? Per un semplice motivo. Perché loro dicevano, prima assumiamo quelli di qua e poi venite voi dopo. No, ma la cosa curiosa è, al di là dei soldi pubblici, fermo un attimo, al di là dei soldi pubblici, perché uno che è richiedente asilo dovrebbe passare un'ora? Mamma no, mia. Ma è curiosa la cosa. Dovresti avere tanti pensieri. Ma in che testa, deve no? fare? Uno ma se sta là tutto il giorno a bighellonare, gli dite allora che poi stupra le vostre donne. Ma no, ma io veramente non capisco. Cioè, qui non c'è polemica. Ci sono dei maestri di sci che hanno messo a disposizione il loro talento, il loro tempo e quindi il loro denaro per fare un'ora di beneficenza e portare sulle piste da sci 8 richiedenti asilo a costo zero per lo Stato. Qualche idiota telefono e dice: hanno insegnato gratis lo sci, io devo pagare. stupidaggini inaudite che nella nuova radio che governerò tra poco, nella fase di transizione per l'elezione del nuovo presidente della Confindustria, candidato unico Mario Capanna, non sentirete più. Perché, ecco, candidato? Il nuovo palinsesto della radio, di così come concordato. Mattino 24, oggi guidato da tal Alino Milan, sostituito da Buongiorno Operaio, viva la FIOM, la rubrica conduce Maurizio Landini. Mix 24, oggi guidato da un signore che mi pare si chiami Minoli, sì, sostituito bravi. Da Mix Operaio, conduce professor Tony Negri. Ma no, Negri, Focus Capanna. Economia, certo, oggi c'è questo Barisoni detto Sebastiano, verrà sostituito dalla trasmissione Patroni Addio, conduce Adriana Faranda, ottima persona. Ottima persona, al posto ammazzato di questa Moro. Ma no, al posto di questa miserabile trasmissione che si chiama Zanzara, sì, ci sarà sì. la trasmissione condotta dal grandissimo Mario Capanna, ma massimo esperto. Lei, scusi. Beh, certo, per questo conduco anche la trasmissione. Massimo esperto nel sabotare le aziende. E la trasmissione si chiamerà Tecnica di guerriglia operaia. Questo nuovo palinsesto a partire dalla settimana prossima, grazie. No, dalla settimana prossima. Allora si faccia leggere prossima. Prima, no? Si faccia leggere prima, caro candidato Capanna. Unico alla presidenza della cosiddetta Confindustria. Allora, pare che nel PD siano un po' incazzati. Adesso parliamo due secondi di politica, ma giusto sì. due secondi che dopo mi annoio subito. Sai che alle 8 verrà udita in commissione antimafia la signora Capozzo, no? Sì, ma chi se ne frega? Se verrà udita in commissione antimafia la signora Capozzo, interessa solo a te, a quattro gatti. No, l'audizione della signora Capozzo, ma chi Sindaco se ne frega delle beghe? Guarda, per me la parola definitiva su questa storia l'ha detta Sgarbi da noi. Altre parole non ce ne sono, cioè tutto il resto è tutta ma tutte non frattaglie, si dilette lei. Tutte frattaglie politiche. La signora Capozzo deve resistere fino alla morte. Deve resistere fino alla morte, punto e basta. A meno che non sia, come dire, travolta dalle indagini, non si dimostri che la signora Capozzo, sindaco di Quarto, ha compiuto le peggiori nefandezze, allora interviene la questione politica. Fino a prova contraria, la signora Capozzo deve resistere fino alla morte. Su questa cosa ha ragione Sgarbi al 100%. Non è che uno si può erigere, no? Cioè a... giudice di qualsiasi cosa, poi loro la possono cacciare certamente, ma l'atteggiamento è assurdo, l'atteggiamento certo. è ridicolo. Comunque alle 20 daremo tutti gli aggiornamenti, ma non daremo nessun aggiornamento. No, non daremo io me ne frego della sorte della signora Capozzo, dico nessun solo aggiornamento. Me ne frego della sorte della signora Capozzo, sono beghe all'interno dei 5 Stelle. Niente aggiornamenti, che si sentono vabbè. Più puri degli altri. La signora Capozzo, finché non è travolta dalle indagini, ma in teoria nemmeno in quel caso, perché uno dovrebbe essere colpevole, ma comunque finché non è travolta dalle indagini e non ha, tra l'altro, finora nemmeno un avviso di garanzia, deve rimanere al suo posto e fottersene di Grillo, di Saviano, dei tre, dell'Ave Maria, eccetera. Deve fottersene se ha le palle. Se non c'ha le palle, si dimetterà e chi se ne frega. Oh, è con noi Maurizio Gasparri. Buonasera, buonasera. Buonasera, finalmente vi risento. Come state? Quanto tempo, facciamolo parlare perché che facciamolo c'è? Parlare perché non va mai in televisione e ha bisogno mai. Di spazio. A proposito, lei fa un programma nuovo, ancora non mi ha invitato. Ha fatto per una forza. Puntata senza di me. Fatto? Beh, la prima adesso... puntata senza Gasparri è effettivamente una cosa molto grave. Io dico veramente, ma è una cosa molto grave. Recupereremo Gasparri, recupereremo sicuro. Ripari, no, ma la domenica c'è il calcio Gasparri, però spesso c'è la Roma. Dipende, basta che non c'è la Roma serale, tanto la Roma va male, che devo fare? Adesso? Vabbè, sì, però comunque la Roma sempre si ha, come si dice, si ama, ma non si discute, però noi ce l'abbiamo con Pallotta, non con la Roma. Tu la discuti molto invece, cioè non sei fedele al motto. Io discuto l'attuale società perché la società è assente, Garcia era oramai nel pallone, il prefetto ha cacciato ingiustamente il pubblico dalla curva. Come il prefetto ha cacciato ingiustamente il pubblico dalla curva? Hanno imposto di fatto delle regole che la curva non accetta. Ma che come sono tu sei che tu che sei legge ordine adesso sì, il prefetto però, dice di dividere la curva in un certo modo e tu dici che il prefetto io sbaglia. Io sono contrario perché tanto quelli che fanno cose violente li identificano, li fotografano, li filmano, quindi si può combattere l'eventuale violenza no. o il rischio violenza con il DASPO senza trasformare la curva in un mortorio come adesso. Tronca la curva, guarda, te lo dico io. Tronca. Ma tronca non c'entra Gabriele. Niente, non sai niente. Sono Gabriele il questore. Ah, Gabriele, è vero, secondo me no, il prefetto di Roma. Ho capito, però, ragazzi. Tronca, no, però l'hanno diventato. Insomma, la scusa, però Maurizio. L'allenatore qui era nel pallone, il pubblico l'hanno cacciato. Totti, che è un leader, come dire, in infortuna, in invecchiamento. Siamo rimasti veramente, come dire. Con le pezze al culo. Con le pezze al culo. Dici. Insomma, siamo un po' messi male. Ma io dico, ma sto Pallotta se ne deve andare, secondo te? Allora, Pallotta sta lì, uno non può guidare una società stando dall'altra parte. A Miami, dice, a Miami. L'ingaggio di Spalletti, l'ho detto a Manzina, sì, è stato ridicolo, sono romanisti, sì. E frequentano lo stadio, ho detto non ho capito se era un capitolo della globalizzazione il viaggio di Spalletti a Miami per firmare il contratto o un cinepanettone, la Roma a Miami. Quindi ho detto ai fratelli Manzina che stanno allo stadio di incrocio lì la domenica, fate un film a sto punto. Loro hanno fatto dei film simpatici. No, ma è vero che il viaggio, adesso per chi Parenzo non sa niente, ma il nuovo allenatore della Roma è dovuto andare a firmare il contratto a Miami. Mentre io ho detto c'è Skype, ci col sono fuso orario, sì, col mentre, viaggio, mentre la società, nel frattempo Garcia rimaneva ad allenare la Roma, praticamente già esonerato. Sì, una roba, sì, da cinepanettone, ci mancava solo Salemme. Guarda, ma secondo te, ma secondo te vogliono solo comprare lo, farsi lo stadio secondo nuovo? Secondo me non hanno grande amore per la città, per la società, sono distaccati, hanno un interesse a mercanti, fare lo stadio, dici, sono mercanti e basta. Sono estranei, disinteressati. Pallotta non viene mai, non c'è mai, è venuto, se n'è andato dopo pochi giorni. Insomma, francamente, se non gli interessa, cioè, il calcio. Ma tu non ce l'hai i soldi per comprare? No, non ce l'ho, io ho sempre. Ma questi poi ce l'hanno i soldi o no, questi qua? Ma questo non si è capito, non si è capito. Non si è capito. Io credo che a Roma i grandi imprenditori romani, gli ultimi che ci sono, dovrebbero fare uno sforzo. Ma ti faccio un esempio, ma c'è Caltagirone a Roma. Caltagirone. Caltagirone. Ma figure se Caltagirone, figure, sì, le risorse ce l'ha, ma figure se si mette in mezzo, ma non so manco mezza Roma, mezza Roma. Non so manco se è romanista, non so manco. Io sono 10 anni che gli dico, ingegnere, lei che può, faccia questo gesto di mecenatismo. Non so manco se è della Roma, ma Caltagirone. No, è un po' Roma. Comunque mi ha sempre detto, ma per carità, non ci penso proprio. Ma figuriamoci, io ogni volta che lo incrocio gli faccio questo appello da tifoso, ma poteva essere il Berlusconi della Roma a farci vincere le Champions. Caltagirone, Caltagirone. Ma c'hai i soldi. E che la compra allora, Parenzo? No, Parenzo no, no, perché Parenzo, tra l'altro del calcio Parenzo non... lavora con Cairo anche, no, adesso in televisione. Io sono del Torino da sempre, infatti. 20... È del Torino, capito? Da è sempre. Del Torino, ha detto sono che è del Torino. Torino da sempre, io ho sempre stato del Torino. E lavora anche alla Sette con Cairo. Ma quale del Torino? Dice del Torino adesso perché ho leccaculo. Ma è stato del Torino per Cairo, ma è pronto a diventare del Milan. È come Fede, è come Fede, come Fede. Quando va a Matrix è del Milan. No, prima quello di... semmai no, quello dell'Inter, io, però insomma, vabbè. Voglio parlarti poi, caro Gaspari, di una cosa che hanno fatto a Vicenza, molto buona con i profughi. Una grande proposta. Ne parliamo dopo la pubblicità. Sì, dopo la pubblicità voglio, a Vicenza, voglio fare una domanda. Profughi nelle scuole come bidelli volontari. Profughi nelle scuole come bidelli volontari. Ne parliamo diffusamente dopo la pubblicità. Wow, ma... una cosa strana. Bah, no, parliamo anche dei froci. Parliamo strano un po' di froci dopo. Dai, parliamo di froci. Sono omosessuale. Gay, froci. Ma perché uno? Sono omosessuale. Ma si può dire froci, però, Maurizio, dai. No, io non lo dico. Non lo dici, è un termine offensivo. Ma non è offensivo, ho detto così, froci non è offensivo. Non lo dico. E non lo dici, vabbè, non lo dico. Vabbè, vado non lo dico. A far la pipì un attimo. Lo pensi, ma non lo dici, vabbè. No, non lo dico, non lo penso. Persone omosessuale. Fermi tutti. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Sì, non so se sia vero o no, Parenzo, però a me è una storia che mi fa andare ai matti. Te lo ricordi Pietro Maso, no? Quello che ha ammazzato i genitori, famosissimo, per fregare i soldi sostanzialmente, sì, no? Sì, allora, ha scritto una lettera al Papa, è uscito già da qualche anno dalla carcere, perché poi l'Italia, no, permette pure che pluri assassini dopo un po' di anni, per carità, questo ha pure fatto un po' di carcere. Comunque, 20 anni, credo. Sì, no, comunque questo qua è in libertà, ha ammazzato i genitori, è libero. Ha scritto una lettera al Papa, ognuno può scrivere una lettera al Papa, per carità, poi adesso va di moda, no? Ho scritto una lettera al Papa, mi scusavo per quello che ho fatto 25 anni fa, pregavo però per la mi pace. Stupisce. Mi no. Stupirebbe se avessi scritto una lettera a Cruciani, ad esempio, che cazzo c'entra Cruciani? Certo, scritto al Papa, quindi... Sì, sono Francesco, ora dedicherò la mia vita agli altri, dice questo qua. Allora, la cosa incredibile è che il Papa gli ha risposto, cioè il Papa lo ha chiamato, cioè il Papa, che dovrebbe avere altre cose da pensare, pare, secondo quello che dice lui, ha chiamato Pietro Maso, ha chiamato il signor Pietro Maso, capito? Io vado ai matti per questa cosa qua, vado ai matti. No, ma la cosa pazzesca è che in un'intervista a chi, questo Maso dice: adesso che ho scontato la mia pena lo posso dire, non ho ucciso i genitori per soldi, perché i soldi li avrei avuti lo stesso. Dissi che il motivo erano i soldi, perché nel momento in cui abbiamo commesso l'omicidio, che fu commesso insieme ad altre persone, un mio amico si era fatto fare un prestito ed eravamo sotto con i soldi, cioè, alla fine però sono i soldi, cioè. Comunque, ma ho tentato altre volte di uccidere i miei genitori, tentativi andati a vuoto di persone matte, ma non ho mai pensato di uccidere per i soldi. sono stato tanto malato da piccolo e i miei mi dicevano non andare a lavorare perché sei malato, non uscire perché sei malato, pensiamo a tutto noi. È come essere gay e i tuoi non lo sanno. Ti vedono diverso, hai 13-14 anni e stai male e non capisci perché. Non ne puoi parlare liberamente perché i tuoi non vogliono, allora stai in casa e soffri. Ecco, forse questo disagio potrebbe essere la risposta a ciò che ho fatto. Cioè, alla fine, in qualche modo, incolpa i genitori, capito? Cioè, incolpa i genitori che non hanno capito il suo disagio di quando era piccolo e lo hanno, in qualche modo, no, portato poi all'esasperazione. Ragazzi, veramente io vado ai matti per queste cose, vado ai pazzi. Vabbè, ma abbiamo con noi Maurizio Gasparri e parliamo della cosa di cui parla la politica in queste ore, da giorni, cioè... della legge sulle unioni omosessuali. Cirinna. Sì, la legge Cirinna. Allora, caro Gasparri, mettiamo che a un certo punto tu impazzisci e diventi omosessuale. Ok? È impossibile? Sì, è impossibile, però diciamo facciamo questo gioco per fare l'esempio. Esempio per esempio, tu diventi omosessuale e ti metti con un compagno. Hai dei figli e ti metti con un compagno. Ti metti con un uomo. Questo qua decide a un certo punto, col consenso della compagna tua, vuole adottare questi bambini, cioè li vuole, vuole la patria potestà, quello che è, insomma, dalla storia. Perché questa cosa qua non si può fare, secondo te? Perché secondo me questa legge deve limitarsi a regolare dei diritti nella convivenza di persone omosessuali. Estendere attraverso quella che viene chiamata l'adozione del figliastro, la stepchild adoption, ad altri aspetti, schiude poi la strada, anche con il testo Cirinna, all'equiparazione totale al matrimonio, che va corretta, come ha fatto capire anche il Quirinale, perché è incostituzionale, apre la strada poi a qualsiasi tipo di adozione, cioè? A quelle del figliastro, a quelle di una persona da adottare, e quindi questo facilita anche quella... Che facilita. La pratica dell'utero in affitto, che secondo me sono due cose diverse, sia che la pratica sono cose diverse, ma una legge fatta male a colpi di sentenze apre la strada a tutta una serie di Sallusti ha detto, Sallusti ha detto una cosa nei giorni scorsi, il direttore del giornale, ha detto che se uno approva, diciamo, il matrimonio omosessuale, l'unione omosessuale, poi a un certo punto il passo successivo è quello della poligamia, è quello dell'unione tra un uomo. È possibile, è possibile. Cioè, tutto. In che senso è possibile? No, ma le dico un'altra cosa. Oggi, ad esempio, una persona mi diceva: allora, se si fa l'unione civile, perché non si consente l'unione civile a 3 o a 4? Non è che a un certo punto, una volta che non è il matrimonio, che è una formula giuridica di un certo tipo tra un uomo e una donna, ma si fa un'altra cosa, perché limitarlo a 2? Siamo cioè, dopo, campo, dopo, cioè, dopo, tu dici che se si approva questa cosa, no, il passo successivo. Vabbè, provocatoriamente, ma evidentemente anche, sostiene, anche tu lo pensi. No, c'è chi dice provocatoriamente: perché limitare l'unione civile a 2? È incostituzionale limitarla, facciamo la cosa più ampia. Ma io voglio dire, guarda, ora per non scherzare troppo, no, che scherzare, quello lo diceva seriamente. Cioè, se, se si toglie un paletto, Sallusti dice: voglio sapere se sei d'accordo su questo. Se si toglie un paletto, c'è la possibilità che dopo a un certo punto uno si innamora del cane e vuole fare un'unione tra un uomo e un cane. Spero che non si arrivi a questo, ma io dico che dobbiamo mettere dei paletti. La Costituzione non prevede che ci sia il matrimonio tra persone dello stesso sesso, come non è vero? C'è la sentenza 138 del 2010, che anche il Quirinale ha fatto filtrare dai giornali, va rispettato. È una vergogna, tra l'altro, che la mummia del Quirinale, io questo lo dico. Ha deciso di correggere la legge. Dopodiché le adozioni, io sono contrario, perché un bambino deve avere un equilibrio psicologico che si realizza con un uomo e una donna. Con due uomini, un bambino psicologicamente non si... è nato da un uomo e una donna. Vabbè, ho capito. La natura così ha fatto, quindi il diritto naturale si uniforma a ciò che naturalmente accade. La generazione della vita non accade con sì, due però... persone dello stesso sesso. Cioè, un bambino che cresce con due uomini, Maurizio, scusami, un bambino che cresce con due uomini, secondo te è privato dell'equilibrio psicologico che deve cioè avere. Squilibrato, cioè che cos'è? Nasce handicappato, nasce handicappato. Ma crede che la natura sia sbagliata? No, ma io non dico che è sbagliata la natura. La natura fa ma succede la già. Natura, Maurizio, la natura. Allora facciamo la clonazione. Però scusami, prendiamo solo quelli intelligenti, alti e forti, come volevano i nazisti, e fate la clonazione, che è una barbarie. Ma che c'entra la clonazione? Scusa, perché questo paragone? Scusa. Si arriva a questo. Il figlio non è una cosa che uno prende come l'automobile. Due uomini o due donne non possono generare e non possono stai avere paragonando, stai paragonando quelli stai paragonando al nazismo quelli che vogliono questa legge. Si cioè... arriva certamente anche all'eugenetica. Ma io mi si arriva al nazismo, allora, dai, su. Ma non è possibile. Due donne che stanno insieme vogliono generare un figlio, non possono generarlo loro due. Prendono insieme una persona, possono anche decidere quale tipo di persona, e vabbè, quale allora, paese, e allora. Quale razza. È il razzismo eugenetico, è una forma di egoismo che, sovvertendo principi naturali. Ho capito, ma un bambino può crescere con due donne o no, secondo te, no, o con due uomini? È sbagliato, uomini? È sbagliato. Cioè, sbagliato, ma succede ma già! Ma cresce handicappato? È sbagliato, caro Parenzo, è un'aberrazione di un egoismo che considera il figlio un oggetto. Ma guarda un che incredibile. Ma cresce handicappato? Ma cresce handicappato questo bambino? Ma stai offendendo migliaia di bambini che già oggi, no, migliaia sto, no, in Italia centinaia di bambini. Sottopongono guarda, la il bambino a una loro violenza per un egoismo. Cioè tu il figlio di quei due di del senatore del Parenzo, PD e della scusi, ma Parenzo, scusi, voi come siete nati? Da una vabbè, Madonna. Ma che c'entra? La papà e mamma che papà così. E mamma, sì, ma così certo. Siamo nati e quindi noi non abbiamo il diritto con leggi di sovvertire ciò che è allora, nella natura. In Italia qualcuno è andato, un senatore del Partito Democratico è andato. Una cosa vergognosa. Dovrebbe ha essere... pagato lo giudice, ha fatto certo. Un atto turpe e vergognoso. E che deve fare di cui solo giudice? Dovrebbe vergognare. Comprare i bambini è una vergogna. La vita non si compra. La ho capito, ma che deve fare? Bisogna togliere il figlio. Bisogna togliere il figlio a questi qua. È stato un atto contro le leggi anche in Italia, questo è vietato. Cioè dovrebbe andare in galera, questo qua. È una cosa vietata e nella nuova legge va ribadito questo. No, divieto. Vabbè, d'accordo, ma deve andare in galera? Che bisogna fare con questo giudice? Chi paga una donna per farsi mettere al mondo un figlio pagandolo compie un atto turpe e di e vabbè, d'accordo, al di là dei proclami, e che deve fare? Che deve fare questo giudice? Non deve essere fatta una cosa del vabbè, genere. D'accordo, ma oltre questo, che bisogna fare? Punirlo? Ah, perché secondo lei, Parenzo, che fa i commenti, è giusto pagare una donna schiava, asservita, ma no, poveretta per io, disperazione? Ma che schiava? È una, io è una, sono contrario, per l'uso del io corpo come della te, donna. Ma non lei è vero, per lo schiavismo delle donne. Tutt'altro, io come lei, ma che schiavismo? Sono contrario, al, guarda, no, chiariamo, io ci sono donne disperate. Io sono contrario all'utero in affitto, e Parenzo vuole questo. No, Parenzo non vuole assolutamente. È come i campi di concentramento nazisti. Ma è gravissimo quello che dice. No, scusi, scusi, io sono totalmente contrario, io sono totalmente contrario all'utero in affitto. È contrario. Totalmente contrario, l'ho sempre detto. Sono contrario e all'utero allora in affitto. Quello che ha fatto l'unica cosa no, che ha pagato per avere un bambino fatto da altri. Invece dico che ci sono da tutelare. Che bisogna fare a sto senatore? Lo giudice ha praticato l'utero in affitto, che è una pratica turpe di schiavismo. E che bisogna, questo l'abbiamo detto, che bisogna fare? Una pratica simile a oddio, l'hai detto già, ma che bisogna fare allora? Costo lo giudice. Al bando, e bisogna ricorda. Carcerare lo giudice e non fare una legge. Bisogna evitare oddio. Che la gente Maurizio l'ho capito la disperazione delle donne. Vabbè, dai, però. Non scherzate, ma l'ho capito, ma no, io non scherzo, però sono a favore io, scusa, dello sfruttamento delle donne. No, io sono a favore del do ut des. Questa non signora do ut des, io ti do i soldi, certo. E certo, ma guardi, pure quelli che portavano gli schiavi dall'Africa in America facevano così. Ma non è la stessa cosa, ma non è la stessa cosa, dai. Ma quando mai? Ma non è così, è tutto regolato, è tutto regolato, dai. Elton John ha fatto una cosa, ha pagato una con questa manterrà generazione di persone con i soldi che gli ha dato Elton John. Dai, su. Ma è una vergogna, quello che ha fatto Elton John è uno schifo. Sì, è e che bisogna vergogna. Fare? Proibire Elton è John di venire in Italia? Di un ricco arrogante che ha sfruttato la disperazione. E che bisogna prossimo. Fare? Impedire Elton John è lo schifo umano che ha fatto questa cosa. Ho capito, lo giudice pure allora, pure lo giudice lo schifo umano allora. Uno che compra un figlio pagando una donna disperata è uno schifo umano. Fa un atto turpe, è un atto orribile. Vabbè, ma l'abbiamo già detto, Maurizio, l'hai ripetuto 40 diciamo volte. Ancora. Però io ti dico una cosa, il conto sono i diritti oddio, nelle convivenze. Vabbè, ma okay, ma l'hai un detto. Conto è l'adozione e la compravendita di vite. Vabbè, d'accordo, ma allora questo lo giudice, che bisogna fare? Punirlo, mandarlo in galera, togliere il figlio? Secondo me ha fatto una cosa che... Ma l'hai detto! Che è già reato in Italia, è un reato, dovrebbe andare incontro alle sanzioni previste in Italia. Beh. Siccome dicono da sinistra che è già vietata... Ma il figlio che cosa, facciamo? Col figlio che facciamo? Col figlio che facciamo? Sarebbe affidata a una coppia eterosessuale che possa allevarlo senza la vergogna di chi ha comprato. Cioè togliergli il figlio, praticamente. Ma uno che l'ha comprato domani lo potrebbe vendere. Ma la comprano, ma su, ma non si può. Esclude, scusi, se io la vita se la compro, la posso anche vendere. E ma questo è il problema, o no? Ho capito che è poi certo. Tu ti aspetti che uno venda un bambino, poi a un certo punto vende un bambino. È un bene. È come un'automobile per questa gente. Compro l'automobile e la rivendo. Dai, i bambini su. Non sono ma quelli automobili. Lo amano, c'hanno il passeggino là, l'ho visto. Vabbè, lo dice lei. Uno beh, che sì, ama direi. A pagare amano. Una persona gli strappa il figlio perché c'ha una madre. Ma non gli strappa, l'ha pagato, no? L'ha pagato, è una procedura appunto, prevista in Canada, pagato. Non in Burkina Faso, in Canada. Io ritengo tutto ciò una barbarie e mi batto contro la barbarie. Poi allora alla fine si farà la clonazione, allora riprodurremo tutti come Cruciani perché è simpatico e svelto e faremo 1000 Cruciani. Io l'altro in televisione ho minacciato uno scherzando, ma non troppo. Allora facciamo 100 Gaspari. No! E allora arriviamo alla clonazione, ognuno può fare le sue eresie. Cerchiamo ma che di c'entra la clonazione? Normale. È un'altra cosa la clonazione. Senza la clonazione. Senza comprare. Vabbè. Ma se io compro, posso anche volere una persona di un certo tipo, e allora vado in laboratorio. Si ricorda una pecora Dolly? Sì, vabbè, ma non è la stessa cosa, dai, su. Ma sono altre cose questo, dai, sono altre cose. Comunque, comprare un bambino, vuol dire uno lo può anche vendere, fa la permuta. Ti da un bambino, me ne dai due più piccoli. Ma che stiamo scherzando? Ma di che parliamo? Senti, ma ti sorprende il fatto che il PD siano un po' arrabbiati, perché nel PD siano un po' incazzati perché Verdini ha detto che... voglio dire, guarda, Verdini tra qualche ora qui si voterà la riforma della Costituzione. Voterà a favore del governo. Bisogna raggiungere... Che avete votato pure voi all'inizio. Sì, e adesso però l'abbiamo più votata perché, per esempio, domani al Copasir, quello per i servizi segreti, si parla della vicenda Carrai. Noi abbiamo uno che fa la riforma in un modo... Che è uno scandalo, sì, che è uno scandalo. ...di merende ai servizi segreti. Sì. Però bisogna bloccare tutto questo. Allora, domani, per arrivare a 161 voti del Senato, che è il quorum obbligatorio... Ci saranno i voti di Verdini. I voti di Verdini saranno decisivi. Abbiamo capito, ma Verdini stava con voi, ho capito, ma finché stava con noi va bene, sono loro che si vergognano di averlo. Comunico a tutti i compagni del PD che domani, senza i voti di Verdini, non c'è la riforma. Ma dei Verdino dipendenti. Invece di comprare i bambini, adesso hanno acquisito gratuitamente, ovviamente, Verdini, che non si vede. Cioè, allora, lo giudice compra i bambini e Renzi invece compra acquisisce gratis. Non comprano, acquisisce gratis Verdini. Gratis bisogna vedere. Comunque, diciamo la verità. Ma Verdini mica si vende, scusi. Qualcosa in cambio. Poi c'è anche utero grande, ci vuole per metterci Verdini dentro. No, vabbè. Io non ho capito, però. Mi ha dato un'idea. Domani, quando parlo, farò il paragone tra l'utero in affitto e invece Verdini che non in affitto, comprato, ma gratis, la in affitto, sempre in affitto. Io non ho capito perché Razzi e Scilipoti vanno bene, perché sono passati con voi quando vi faceva comodo. Sono stati candidati con e noi. Verdini sono all'inizio, dopo, esattamente come quei bambini. Sono stati sanati dopo. A noi ci dicono che ci dobbiamo vergognare e loro si vergognino per questa acquisizione di Verdini. Comunque, lo sai che fra poco in questo studio pianteremo una piantina di marijuana? Cioè, mamma fra poco mia, pure in questo. Sì, pure questo. Che devo fare? Io sono libertario, no. Non è stato legalizzato. Allora, nei prossimi minuti, qui alla Zanzara, a Milano, purtroppo, non a Roma, verrà piantata una dei semi di marijuana e avremo la piantina di marijuana della Zanzara che molto crescerà questo, e che io coltiverò day by day, capito? Per la grande, come direbbe Pannella, Parenzo, la grande battaglia radicale, liberale, libertaria, esperantista, perché noi abbiamo detto che la Corte Incostituzionale, quando nel 48 eravamo io, De Gasperi, Gasparri non c'era perché era nell'utero in affitto di Almirante e noi dicemmo libertà per i Falun Gong perseguitati dai cinesi, facemmo il referendum contro il finanziamento pubblico ai partiti. Ma ti sto dicendo un'altra mentre cosa, con l'inseminazione eterologa Gasparri stava ancora con Almirante Giorgio, cioè, dici senza... che noi difendemmo perché il fascismo degli antifascisti del Partito Comunista il italiano Vanella non era più niente, fascista di mare. Senti, vabbè, Maurizio, ti saluto, va. Ti saluto. Se mettete in vendita Parenzo lo compro io. ciao. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di Zanzara. La Zanzara. Soldi è solo un problema di soldi. Inquadriamo il problema delle unioni di fatto, no? Perché scimmiottare la famiglia per avere la reversibilità? Se hai il problema di chi ti viene a trovare all'ospedale, si fa una riga sulla carta d'identità, io voglio che all'ospedale mi venga a trovare Pinco, no? Che forse farebbe bene anche agli etero o agli sposati, che se magari non sopportano più la moglie, almeno mentre muoiono evitano di vederla. Ehi, ma la tipa di ieri, quella della relazione aperta, ma sapete che c'ha una voce mostruosamente arrapante? Non è che mi posso inserire anch'io in questa relazione? Sono simpatico, disponibile, tiro. L'acqua molle la terra, lo fuoco molle lo ferre e la topa indosta l'ucella. Ah, Allora gli amici di Libero scoprono anche loro la cacca. È l'ora della cacca, Parenzo, eh? Bisogna sempre dire qualcosa. Gli amici di Libero scoprono questo grande argomento. Quasi sicuramente da tutta la vita che fate la cacca nel modo sbagliato, scrivono. E quanto rivela la dottoranda in biologia medica Giulia Enders, anche qui l'abbiamo scoperta anche noi, nel suo libro, che non mi ricordo come si chiama, bestseller in Germania. Secondo la studiosa, sedersi sul water non è la mossa migliore per aiutare l'evacuazione, perché il meccanismo di chiusura dell'intestino non è progettato per aprire lo sportello completamente quando siamo seduti, è come un tubo piegato. Vedo. Al contrario, per evitare la costipazione, la posizione migliore è quella dello squat. Fianchi indietro, ginocchia piegate, busto abbassato, che metterebbe molta meno pressione sul fondo schiena. 1,2 miliardi di persone nel mondo che utilizzano lo squat hanno meno probabilità, sentite, state attenti, hanno meno probabilità di soffrire di diverticoli e meno problemi di emorroidi. Ma lo squat, ragazzi, Cioè, fate la merda con lo squat, cagate nella posizione dello squat. Allora, la discussione sul circo di prima, però, David, mi ha dato l'idea di chiamare la persona che tu hai incontrato, cioè il padrone del circo dove sei andato, l'American Circus, si chiama Togni, no? Flavio, la famiglia Togni, la famiglia di Flavio Togni, il mitologico Flavio Togni, perché io ho due o tre domandine da fare al signor Togni. Questa cosa dell'animale, se sta meglio nel circo o sta meglio nel suo habitat naturale? Non so naturale. Se risponde, perché è a Monte Carlo, perché c'è... Nel civile Monte Carlo, principato di Monte Carlo, insomma, c'è il Festival Mondiale del Circo. Quindi tutti i circensi del mondo si ritrovano lì, a Monte Carlo, per la gara. Caro Parenzo, quando sei andato al circo qualche settimana fa, insieme American a tua figlia... Circus, sì, ma che scherzo, cosa pazzesca! Con tua figlia, no? Leoni, elefanti, ma sì, acrobati, ma straordinaria! L'abbiamo raccontato, ma chi è che hai incontrato davanti là? C'è il signor Togni, il patron di questo grande ma spettacolo viaggiante. Flavio? Signor Flavio Togni, come no? Certo. Eccolo con noi, buonasera. Dove? Ciao, buonasera, ciao David, buonasera. Eccolo, grande Togni. Come stai? Come stai? Benissimo, perfetta forma. A Monte Carlo il signor Togni, sono no? A Monte Carlo perché sto partecipando al Festival Internazionale del Circo, è la 40ª edizione, quindi un giubileo. Sì. E sono stati invitati tutti coloro che hanno vinto le varie edizioni e io sono tra quelli. Ecco, ma uno che fa il circo ama gli animali più degli animalisti, di certi animalisti, secondo te? Nel mio caso sicuramente sì, e nel caso di tutti i miei familiari, perché io ho educato i miei figli a rispettare gli animali come se fossero membri della nostra famiglia. Poi sicuramente non posso dire e giurare che tutti trattino gli animali in modo perfetto, ma è anche vero che non si può fare di tutte le erbe un fascio, e se c'è qualche genitore che abusa dei propri figli, non per quello che viene detto basta bambini al mondo. Ah, tu dici, fai questo paragone, no? Ma secondo me sì, no, perché sennò altrimenti se c'è qualcuno che non tratta bene gli animali e si dice ok, basta animali al circo, allora se c'è qualche genitore che tratta male un figlio, oppure qualche professore o maestro di scuola che ha fatto delle cose che non andavano bene. Cioè non siamo tutti pedofili, insomma. È bravo, dei bambini, non per quello si dice basta scuola, basta maestri di scuola. Senti, ma nei tuoi circhi alcuni animali sono sedati? Sono sedati. No, un animale sedato come una persona sedata, non conosci la sua reazione. Cioè, sono sedati, sono utilizzate dei farmaci per assolutamente no, perché come dicevo prima, gli animali sono come le persone, tu le cioè sedi, sono solo addestrati, addestrati. Ma sì, sono addestrati, crescono assieme a noi, noi conosciamo a profondo il loro ma carattere. Ma scusami Flavio, ma addestrare ad esempio quelle meravigliose tigri che ho visto, no? Quelle tigri lì pazzesche. Ma lì come si fa da si fa con una bacchetta, con un bocconcino di carne sopra, l'animale segue il bocconcino di carne, sale sullo sgabello, in quel momento tu gli, quando lui è salito sullo sgabello o lei che sia una tigre, gli dai la ricompensa del bocconcino di carne. Quello che guadagna di più, diciamo, nel tuo circo chi è? E sicuramente chi guadagna di più sono gli acrobati aerei. Quanto guadagnano più o meno al mese quelli là? Come un ottimo impiegato, perché... Cioè tipo, che ne so, 3-4 mila euro netti, quanto? Sì, al mese. Al mese? 3 mila euro netti al mese, e rischiano la vita naturalmente. Beh, naturalmente sì, e anche l'addestratore di leoni più o meno la stessa cosa. La questione degli animalisti, no? Tu dici che gli animali stanno meglio al circo che fuori? Premettiamo che tutti gli animali che sono nati sono al circo sono nati in cattività, quindi non c'è nessuno che va a prelevare una tigre in natura e portarla al circo. Comunque anche gli elefanti asiatici che all'inizio venivano dall'India sono tutti elefanti figli di elefanti da lavoro, perché gli elefanti asiatici vengono utilizzati come animali da lavoro per lavorare nelle foreste, portare i tronchi. Per cui stanno meglio paradossalmente al circo. Ma paradossalmente sicuramente hanno una vita più semplice. Diciamo che i genitori dei nostri elefanti erano elefanti da lavoro che lavoravano 8-10 ore al giorno tirando tronchi, tirando pesi forti. Insomma, si spaccavano le ossa, mentre i vostri, diciamo, fanno un lavoro più nobile. Di spettacolo e hanno finito la loro attività fisica. Ma ha ragione. Dunque, è come in un hotel a 5 stelle oggi. Cioè stare dunque, per paradossalmente, si può dire che voi fate un favore agli animali. Li trattiamo bene, siamo super controllati. È un albergo. Ma quello d'accordo, quello è una base. È una spa. No. Cioè, la natura è peggio del circo. Dai, la natura sicuramente è natura. Però è peggio del circo. Sicuramente la vita degli animali hanno una vita molto più dura che nel circo. L'animale è una cosa e l'essere umano un'altra. Io vorrei vedere se noi mettiamo un animalista o il Tony in mezzo a un branco, un gruppo di leoni non ammaestrati. Vediamo cosa succede, se lo mangiano poi si dicono no, bravo, noi ti rispettiamo. Un animalista in mezzo, mettiamo un animalista in mezzo a cosa? Un animalista in mezzo a un branco. Nella gabbia di leoni. E vediamo se il leone lo rispetta e non se lo mangia. Grazie Flavio. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. No, ma guarda che ha ragione lui, eh. Cioè, alla fine ha ragione Togni. Cioè, perché la sostanza è questa. Ah, cioè, me lo dici. No, ma io sono d'accordo con te in questo caso. Mi dispiace, non siamo divisi su questo. Però, gli animali che stanno dentro al circo, alla fine, chi le ha detto che soffrono? Scherzi, la sofferenza è di tutti, anche degli uomini, no? Cioè, anche gli uomini soffrono per mille cose. Non è che gli animali soffrono meno degli uomini. Veramente lavoreranno 8 minuti. Su 3 sere, 4 sere. Fuori a si fanno un culo così minuti. Fuori. Vengono mangiati, braccati, no? Sono là nelle intemperie. Là stanno accuditi al caldo. Assolutamente. Pierluigi Latina, dai. Pierluigi, dimmi. Oh, senti, sì, io. Ciao Luciani, volevo dire, ma Gaspari, a te che cazzo te frega se la gente si può fare 3, 4, 5? Perché che problema ci sarebbe? Beh, oddio, ragazzi, per me va bene tutto, il poliamore, le unioni, cioè che, le ammucchiate, lo scambismo, no, quello che volete. Come ma io ma no, perché? Ma io sono d'accordo, io sul fatto che della certificazione, no, cioè se uno vuole fare la vita no, di affetti come vuole, la vuole impostare come vuole, amando più persone, non c'è nessun problema. Ma perché lo Stato deve riconoscere l'unione? Perché ognuno fa prendere vabbè, gli ma dai, ma che c'entra? Ma non è che come può nella essere... coppia come una normale coppia, no? Ma non può essere riconosciuto, ma non può essere riconosciuto tutto, capito? Cioè non si può riconoscere tutto. No, ma l'argomento di quelli che sono contro il matrimonio gay, diciamo così, dicono: vabbè, però perché non riconoscere allora che il matrimonio a 3, a 4, a 5? Perché non riconoscere certo, l'affetto per un cane? Perché non riconoscere l'affetto per un cane è un'altra cosa. No, qualcuno dice anche questo. Sì, ho letto su un giornale americano, online, molto conosciuto, che si chiama Politico, Parenzo, adesso cito una cosa molto alta per la zanzara, mi hanno mandato un articolo in cui che ha questo titolo: in America si comincia a discutere della legalizzazione della poligamia, che darebbe ragione a quelli che dicono che dopo il matrimonio gay viene il matrimonio plurimo, cioè la poligamia. Ma non è io posso essere anche d'accordo con te sullo stile di vita, ma quello è un altro discorso. Cioè non esisterà mai nessun paese, sì, ma un matrimonio con 4 persone devo sposare. Già è difficile sposarsi con una, mo adesso con 4 persone. Appunto, che succederà? Si divorzieranno, si cambieranno, andrà qualcun altro, e diventeranno 3, 5, 2, 1. Ciao Pierluigi, ciao. Ma che problema c'è? Ma non è così, dai su, ma non me ne frega niente. Io sono la persona più libera del mondo, però non è che pretendo che il mio modo di vita sia legalizzato dallo Stato, dai. Riccardo d'Aosta. Se io prendo gli stessi impegni che prendono due persone nei confronti dello Stato, scusa. Ma non si può concepire il rapporto a quattro, c'è un rapporto legalizzato a quattro. Vabbè, ma non è che non si può concepire il rapporto, ci sono un sacco, c'è un sacco di gente che ha, come dire, che no, che ha rapporti plurimi, eccetera. Ma non è che lo Stato riconosce. Sì, bene, voi siete sposati, però non siete due, siete quattro, siete cinque. C'è una barriera che è quella delle due persone per quello che riguarda la legalizzazione, la legge. Tutto il resto per me va bene tutto, ma non è che ci può essere il bollino dello Stato sopra. Fermi tutti. Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. La Zanzara. Ma perché Civati non mi fa la lotta per togliere l'IVA dalla carta igienica? Dite a sto scemo dei Civati perché tale è che sta a pensare agli assorbenti, sessisti, ma vaffanculo, sono diabetico, ogni sei mesi devo andare a rinnovare il piano terapeutico, devo fare file, pagare ticket, visite, ma se sono diabetico a vita cosa cazzo devo rinnovare? Pensate alle cose serie, vaffanculo. Allora, a proposito di assorbenti, caro Parenzo, ho letto una cosa di una scrittrice italo-somala, anche qui cito una cosa molto alta per la Zanzara, una scrittrice italo-somala su Internazionale, la quale scrive delle cose incredibili su questa storia degli assorbenti. Ogni mese spendo circa 8 euro in assorbenti, ho un flusso abbondante, per non parlare delle perdite premestruali, e i 18 pezzi di una confezione non mi bastano mai. E vabbè, d'accordo, ognuno ha le perdite che ha. Nella mia vita ho usato anche tamponi interni, eppure quelli costano parecchio. Su ogni confezione pago come tutte l'IVA, quella sui prodotti sanitari femminili, che è pari al 22%. L'assorbente, il tampax o la coppetta vaginale non sono considerati beni essenziali. Non sono come il pane o un giornale, secondo lo Stato italiano. Noi donne abbiamo il ciclo ogni mese, ma per i paesi in cui vivo questo è un dettaglio. Come un dettaglio sono i crampi, quelle emicranie che ti staccheresti la testa a morsi, quel sangue che ti scorre tra le gambe. Un po' come se tutto questo non fosse davvero importante per la nostra bella Italia. Ed ecco che ogni mese ci cade addosso direttamente sul portafoglio quella maledetta IVA al 22%. Quando il leader della nuova formazione possibile, Giuseppe Civati, ha depositato in Parlamento un provvedimento per abbattere quel muro del 22%, ho fatto come molte i salti di gioia. Adesso per me va bene tutto, si può discutere ovviamente del 22% fino al 4%, ma tu pensi davvero che le donne, le tantissime donne italiane, quelle che stanno ascoltando la Zanzara, nel momento in cui hanno queste perdite anche notevoli, come la signora Scegolo, non so come si chiama, pensano oddio il 22%, il 22%. Beh, ti cambia la vita però, eh. Ma dai, su, il 22% su, ma 7 non, euro diciamo. Poi per carità è un provvedimento concreto, la sinistra si occupa per la prima volta di una cosa concreta, cioè della figa, però per ragazzi volta, dai no? Allora beh, ho qui un signore che si chiama, un ragazzo in realtà, che era si chiama studio. sì qui in studio, Luca Marola o Marola, Marola. Grazie per il ragazzo Marola. Marola, anni? 38. Anni 38, titolare Parmense, titolare, no, gestore, scusa, non titolare, gestore del canapaio ducale di Parma, giusto? Sì, parmigiano, non parmense. I ah, cittadini scusi, sono parmigiani, quelli di fuori sono parmense. Mamma mia, oh, che tigna. Allora, cosa si vende innanzitutto in questo preziosissimo locale che invito naturalmente tutti gli ascoltatori della Zanzara a frequentare assiduamente? Ottimo. No, il canapaio ducale è uno dei 250 negozi simili che esistono in Italia. Noi vendiamo dai semi di cannabis, le attrezzature per la coltivazione, poi? I fertilizzanti, i prodotti derivati dalla canapa, quindi molto prodotti alimentari piuttosto che cosmetici. Ma qualcuno entra e si fa le canne dentro? Le canne non se le fanno dentro perché c'è una legge, credo sirchia, che vieta il fumo dentro, il locale, fumo, vabbè, dentro i locali. Anche nei coffee shop olandesi non si può più fumare le sigarette dentro. Per cui tu vendi, tra le altre cose, tutti i preparati per fare, per coltivare la cannabis, cosa che a norma di legge non si può fare. Per la legge italiana la coltivazione di cannabis è illegale. È illegale, cioè se io adesso... Però lei vende dei semi... Sì, ma la cosa curiosa è che uno può vendere tutto il preparato, tutto il preparato, propedeutico, esatto, tutto quello che è propedeutico. ermeneutico. Poi lei dice quello che uno fa a casa sua non è un problema suo, giustamente. Esatto, è un problema forse certo. delle forze dell'ordine, ma forse adesso anche hanno altre cose più, più importanti. Allora, da, questo da seguire, signore, ecco. però, Marola, ha organizzato dei corsi per i giovani del Partito Democratico, ma in realtà sono aperti a tutti, cioè con la collaborazione dei giovani del PD, amici tuoi, Parenzo, ha organizzato sì. dei corsi per farsi le canne, io la traduco così, cioè che per spiegare cos'è la marijuana, come si coltiva, eccetera, e anche c'è la questione della marijuana terapeutica, no? Molto importante, naturalmente, che per me dovrebbe essere autorizzata in tutte le regioni, purtroppo in Lombardia non lo è. E anche però come si rollano le canne, giusto? Beh, insomma, su come tu si rollano le canne non ho insegnato. Abbiamo insegnato come si coltiva una piantina di marijuana. Ma anche come si fanno le canne, come si fumano, Diciamo che era l'ultima come parte, si preparano. Gli ultimi 5 minuti del corso. Quelli più frequentati però, quelli più frequentati o no? Dura 2 ore, 2 ore e mezza questo con corso. Con i giovani del PD, penso qualcuno ha detto i drogati del PD. No, come si permette? No, è il Comitato Lombardo per la Cannabis Terapeutica insieme a... Associazione Coscioni, i radicali e i giovani del PD che hanno organizzato il corso aperto ai cittadini. Cioè ci ma si Sala scrive, lo si avete scrivono. Invitato il signor Sala, sembra interessante ad esempio. È stato invitato all'ultimo corso di sabato scorso, non sia è venuto. Sala che Maiorino. Maiorino è venuto e ha fatto lui Sala il saluto no. Sala no. alla classe, ecco. Sala non è venuto. Ne abbiamo un altro il 23, sempre qua a Milano. Dunque invitiamo Sala. Cui... Invitiamo esatto. Sala. Reiteriamo venga al corso, Sala. Venga al corso. Venga al corso perché Maiorino è andato. Quindi sì, vabbè, quello se ne fotterà che Maiorino è andato. No, altro candidato, spieghiamo, a sindaco di Milano, se non si capisce niente, del Partito Democratico. Però qui abbiamo, dunque Sala, se è a favore della legalizzazione della cannabis, se la dico così, vada a fare questo corso, vada a trovare questi ragazzi. Quanta gente c'è in questi corsi? Ogni volta una 50ina di persone. Una 50ina di persone ogni volta. Allora, qui abbiamo portato una specie di contenitore, non è proprio un vaso in senso classico. Sì, è un vaso in senso classico perché vedi che hai buchini sotto per il drenaggio. Ah, per cui non si può... Ah, è un vaso fatto apposta. Non deve mai essere troppa acqua. Bravissimo, Parenzo. Ma Parenzo sa tutto, perché tu ti sei fatto la piantina di marijuana a casa tua, no, David. Ti assicuro, te lo direi qualche tranquillamente. Qualche volta l'hai fatto tranquillamente. Qualche no, volta l'hai so, fatto. Però siccome ho... Non l'ho fatto, te lo direi, non ho problemi. Ma non escludo adesso di farmi mandare in prova. Non escludo di farmi mandare in prova. Dove? Dal signore, dal simpatico professore che è lì in studio, dei semi qui per cortesia. Diamo l'indirizzo a Radio 24. Ma lo sai che mi diceva che praticamente dell'Indipendenza, se... sì, mandatemi tutto qui. Sì. E io metterò in prova, certamente. Però so come si fa, cioè so che non ci deve essere molta acqua. Perché è delicato il seme di Maria. Molto della delicato. Marijuana. Allora, sì. Però mi diceva prima che deve praticamente se uno coltiva queste cose qua, commette un reato, sbaglio. No. Sì. Beh, sì, ancora adesso la coltivazione di cannabis è un reato penale. Poi grazie tu sei finito sotto processo. Diciamo solo un reato penale, no, perché come dire reato. Tu sei finito diciamo sotto processo e poi sei stato assolto. Sì, no? Ma per un altro reato. Che reato? L'istigazione, ovviamente. Quello che, stai quello che lei qua. Sta compiendo in quello questo che momento sto cercando di far... esatto sì non contento la terza cioè quanti volta processi ha avuto per istigazione a che cosa? Istigazione alla coltivazione alla all'uso della droga all'uso di droga sì e quanti processi ha avuto? Tre sì. E quante canne hai fumato in vita tua? Aiuto sai, è un problema quello della memoria breve per i fumatori quindi... dicono che va in pappa il cervello sì. Con tante canne è vero secondo te? Fumai sì, sì. Tante non, canne non si può dire che fa bene la marijuana non è questo cioè questo fumare sì. Tanta marijuana non ma fa no, bene ma come qualunque cosa ma cioè, come ascoltare tanta zanzara ad esempio fa male no quello no quello non fa male uno diventa come Mauro da Mantova poi fa malissimo c'è quel rischio lì? Come no? Ma che fate voi? La marijuana? Io, a me hanno segnalato persone che tornano a casa in macchina dalla moglie e la moglie dice amore dice la pasta. La pasta? Sai chi l'ha fatta? Dice che ti è successo amore mio? E la pasta al pomodoro? La pasta al pomodoro la mangia dei benedetti! Vabbè ok ho capito che c'entra però. Non c'entra niente. Cioè ci sono delle malattie che vengono riscontrate nei anche membri della Confindustria ad esempio. C'era l'altro giorno il board di Confindustria che doveva decidere coi saggi, giganieri eccetera. Vabbè, lo sappiamo, chi sarà il futuro presidente della Confindustria. E pare che a un certo punto qualcuno è saltato il vice di Squinzi. Sì. Cosa hai detto? Pare che sia successo questo, diceva anche nelle riunioni di Napoletano, della direzione del Sole, quando doveva fare il titolo, diceva fate presto! Fate presto! E pare che appunto il vice direttore del Sole abbia, cioè, è così, è contagioso, è terribile. Cioè, dici, la stessa cosa può succedere con quelli che senza dubbio quelli che ascoltano tanto la Zanzara. Comunque mandami tutto in prova, adesso ve lo faccio però sapere. Però adesso iniziamo questa operazione. L'operazione è quella di avere questo vaso, che è il vaso di marijuana, sì, della Zanzara. Questo è il punto. Per gentile concessione, il regalo del signore qui di fronte, magari poi glielo pago, non lo so come vorrà lui. È gratis? Può essere gratis? Era un dono, era un dono insieme ai due libri, sì. Sì, perché ha scritto due libri, ma uno marijuana in salotto, però, e legalizzare con successo. La dona cosa incredibile è che uno anche, scusami, la cosa incredibile è dell'Italia, dell'ipocrisia dell'Italia, che uno sta a fumare tutto a Milano, manda qualcosa a Roma. Allora, qui la situazione incredibile è che in Italia si può scrivere, ma per fortuna, un libro o diversi libri sulla marijuana da legalizzare in salotto, come si fuma, come non si fuma, poi è tutto proibito. Cioè, è incredibile la cosa. Cioè, si può scrivere, parlare, eccetera. Se uno stato coerente dovrebbe, come in Russia, non dovrebbe vietare anche la, come vietano la propaganda gay, bisognerebbe vietare la propaganda per la, no, per la marijuana. Certo. Invece uno può dire qualsiasi cosa, però poi non si può fare. Comunque, vabbè, qui c'è il vasetto della marijuana. Beh, ad esempio, se posso, dimmi. Una cosa importante è successa l'anno scorso, quando un apparato dello Stato, sia la Direzione Nazionale Antimafia, per la prima volta scrive sulla sua relazione al Parlamento come il fenomeno del consumo della cannabis sia un fenomeno endemico, paragonabile al consumo di alcol e tabacco, e quindi si invita il legislatore a trovare forme di depenalizzazione. È la prima volta che succede che un pezzo dello Stato dice ci arrendiamo, non ce la si fa, è sdoganato anche dal punto di vista sociale. Bisogna un po' legalizzare. Vabbè, allora, la piantina di marijuana, facciamola diventare la piantina della Zanzara. Come funziona? Tu procedi con i semi. Come prima cosa, te la passo, così diventa della Zanzara e non più di Luca Zanzara. Così commettiamo anche un piccolo reato. Lo stai commettendo a Milano? Io intanto... Sì, adesso, ma io sono totalmente fuori da tutto. Do quelle indicazioni che di norma... Non sei fuori da tutto perché sei dalla Zanzara, dunque è come se... Ma sono gli svantaggi, voi ve la fumate, io sto qua a prendermi il reato, non ho capito. Posso mettere qualcosa, terriccio? Allora, do quelle indicazioni che normalmente do ai corsi, cioè che bisogna fare? Come anche quello di sabato prossimo 23 qui a Milano. Sì, poi allora apri la busta, un semino. Aspetta, che busta? Ah, questa busta qua. Quella cosa lì. Dov'è il semino? Sarà dentro, sono abbastanza piccoli e tigrati. E come faccio? Tiramelo fuori tu, dai. Sento tagliato fuori da tutto. Comunque, no, vabbè, il semino. L'importante è metterlo mezzo centimetro, non di più, sottoterra, non premere. Mezzo centimetro il semino di marijuana sottoterra. Non lo merda. So, cioè, merda, puoi dirlo merda qua tranquillamente. Cioè, beh, tra le tante cose dette, guarda, questa mi pare la cosa meno grave, francamente. Tra le tante cose fatte, abbiamo aperto. Non, la busta. Cioè, non riusciamo ad aprire qua. Cioè, aprite la busta, sembra Mike, d'accordo? Mezzo centimetro sotto. Aspetta, intanto facciamo intervenire Americo da Caserta. Vai, Americo, dimmi. Americo, dimmi scusa, sto preparando sta piantina di marijuana, scusa, vedi, tu di pure, vai. Dimmi, vai. Ho sentito Gasparri che ti parlava addosso lei a Parenzo e lei non diceva niente. Ma no, non dicevo niente, mi pare esagerato, dai. Normalmente, insomma, alle altre persone un poco meno arroganti, meno, le brucia e le inchioda e le... attacca la comunicazione, non gli fa compiere un pensiero finito. Insomma. Vabbè, dai, che qual è la critica? Che ho fatto parlare troppo Gasparri? Non ho capito. Mi sembra, insomma, che stai comportando come un leccaculo dei fascistelli. Leccaculo dei fascistelli. Io ho detto chiaramente che sono totalmente contro quello che diceva Gasparri, sono a favore abbiamo aperto, va bene. Allora aspetta un attimo, aspetta. No, leccaculo dei fascistelli lo dice a tua sorella poi, leccaculo dei fascistelli, scusami se te lo dico, ma lo dice a tua sorella. Adesso io sono impegnato tra parlare con un ascoltatore e piantare un semino di mano. Dunque il semino mezzo qua, semino di mano. Mezzo centimetro sotto il terreno. Come si fa di mezzo centimetro sotto? Pure dei pignolo. La punta di una matita. La punta di una matita. Sotto la punta. Si ricopre col terriccio leggermente, senza pigiare troppo. Inumidisce con l'acqua gentilmente offerta dalla redazione della Zanzara. Aspetta un attimo. Grazie Americo. Intanto Stefano da Milano. Vai Stefano, dimmi. Pronto? Sì, aspetta un attimo che inumidisco Stefano. Come inumidisco? Qua. Sì, faccia pure. Molta acqua, quanta acqua? Pochissima acqua. Sopra il semino? Vi sto stimando molto per quello che state facendo. Aspetta, sopra il semino qua. Io purtroppo sono isolato, molto sono poco. Qua. Vai. Mi sembra di aver fatto bene. A Roma, questi fanno tutto a Milano. Va bene, poi acqua minerale, uliveto, va bene anche l'uliveto, va bene. Cioè. Questo è quello che vabbè, poi vai tu Stefano, vai, dimmi, parla. Sì. No, io volevo parlare a proposito del circo, di quelli che l'acqua? degli animali. L'acqua non si sente. Animalisti. Sì, dimmi. Io penso questa cosa molto semplice, cioè secondo me noi siamo esseri viventi in questo pianeta e siamo tutti uguali. Sì. L'uomo è un animale esattamente come tutti gli altri. Senti, tu mi hai interrotto. Quando uno hai, pianta il semino, esatto. Quando cresce, tu quando hai, è che si può cominciare hai a... Hai interrotto questa cosa per dirmi che gli uomini sono uguali sì, agli animali. No, dai, ma stupidaggine. Ma Stefano, io non ne posso più. Dunque, poi che bisogna fare dopo? Allora, la fase di germinazione dura dalle 24 ore ai 4 giorni. Quindi il germoglio, quel seme ma che deve si spuntare? Aprirà. Che deve spuntare? Un germoglio. Un germoglio. Deve spuntare. Una fogliolina. Quelle due foglioline tonde che si chiamano cotiledoni. A quel punto serve tanta luce, sì. O artificiale, sì. Ma non no, la però io ho oppure... la mia scrivania accanto alla finestra, dunque là può andare bene. Benissimo, secondo me, mettila nello studio di Napoletano. Scusa, c'è molta luce? No, sì, non c'è molta luce. È uno studio piccolino isolato. La migliore no. finestra allora, è quella esposta a est, niente. Poi a sud, poi a ovest e poi a nord. Scusa, però dunque quel coperchio non va. Il coperchio no, non va utilizzato. È sotto vaso. Ah, bisogna là utilizzare sotto, certo. Sotto vaso così. Benissimo. Quindi tenere inumidito, dopo 24 ore di norma il semino nasce e serve tanta luce. Tanta luce, poi che succede? Quanto la pianta servirà a fertilizzarla? Cioè, qua, prima di fumarsela, quanto tempo passa? Allora, queste sono le autofiorenti, femminizzate e autofiorenti, quindi è una pianta buona da fumare. Dai 60 giorni agli 80 giorni le varietà autofiorenti saltano la crescita, entrano subito in fioritura, dei piccoli bonsai sono. Allora, abbiamo la pianta di marijuana della Zanzara, piantata, cioè abbiamo messo i semini dentro, AD Milano, come si dice? AD 19, che è 19 oggi? 19 sì. Di gennaio 2016 alle informiamo 20... le autorità. Informiamo le autorità. Che ma il reato è stato compiuto no, a Milano. No, ma nessun reato, qui non c'è nessun reato. No, cioè, informiamo in teoria... le autorità che la magistratura competente si deve trovare a Milano. Perché se la magistratura inquirente venisse a Roma, troverebbe soltanto Parenzo che non ha neanche potuto fumare e non ha quindi potuto usufruire di questo ottimo servizio che per una volta la Confindustria ha fatto ai suoi dipendenti. Grazie alla Ducale, come si chiama? Canapaio Ducale, Ducale di Parma. Ci sentiamo domani 18:30, ragazzi, a domani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica, a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.